Italia. Cacchio, direi che sei aperto, c'è chi alza la mattina, a Usilo, su in alto a tutti. E al rifugio dell'acqua, sono andato lì su, c'era la nebbia, non si poteva nulla. A fare collegamenti? E allora? Eh? E allora? Qualcuno ha risposto? Australia. Cacchio, lì c'è una visione, lì sono 800 metri, è un bel alto quel punto. L'Australia ha risposto per un attimo e poi ha chiamato Italy e poi non si è più sentito. Ma non c'è una propagazione molto buona. Ma come ho fatto? Stavo ascoltando, c'erano Stati Uniti e la Spagna, abbastanza forte, però è tutto mischiato, sono uno sopra l'altro, non puoi parlarci perché uno schiaccia l'altro. C'erano paesi molto lontani, Canada, Australia stamattina, sembrava quasi impossibile, sentiva proprio bene, nitido, poi a un certo punto è mancata la propagazione. E certo, così cambia, poi quando sono queste giornate così, con queste perturbazioni di cose, di pioggia, cose del genere, temporali, c'è sempre qualche buco, si forma, però sono brivi, non sono a lungo termine. Certe volte con la Spagna stai a orientare parlando. E vabbè, ma la Spagna dai, due pace, l'Australia già ti dà un po' di porra, ti imporra un po'. Quindi già lo credo, più lontano dalla Spagna non ne abbiamo, era esattamente dalla parte opposta alla nostra la Spagna, sono migliaia e migliaia di chilometri. Ma l'Australia, pensavo che si dice dalla Spagna, cosa è di zero? No, la Spagna è vicina, è a due tiri di schioppo. La cosa brutta è che andavo la Corsica di fronte, mai sentita, una volta solo mi è capitato di sentire la Corsica. È completamente chiusa per noi. Le Canarie le prende a uffa, sempre, anche d'inverno pieno. Ma per me, io ti parlo di anni addietro, la Corsica, facevo dei collegamenti, arrivavo benissimo. Santiago 995 in Corsica. Però poi non l'ho più sentita nemmeno io, probabilmente ha cambiato la situazione. Oh, c'è da dire che in Corsica sono 300.000 abitanti, prima magari i CB ce n'erano, adesso ancora, già ce ne abbiamo pochi di noi, dalle nostre parti, figurati di lì che sono 300.000, ve ne saranno ancora di meno di noi. Infatti quando ci vado in Corsica, sono un paio l'ultima volta, due anni fa, sono andato, guardavo in giro l'antenna, ma poche nulla, rarissimo, per dire, io ci sono 60.000 abitanti, ne vedi poco e niente, di qualche radioamatore lo vedi, ma antenne CB non ne vedi. Paga. Vabbè, a te ti hanno parlato di quella manifestazione che dobbiamo fare. A bracci. Bracci. No, che bella manifestazione, non so se era oggi o grande web, mi hanno mandato un po' di messaggi, già ho capito quella che dicendo, dopo ne parliamo, no? C'è la manifestazione in Piazza d'Italia che ci sono delle persone e ti abbracciano. Persone senza conoscersi così. Gente, una amica me l'ha mandato il coso, il messaggio. Sì, sera, in continente hanno fatto anche i baci, si avvicinavi a Milano, l'hanno fatto nella piazza del Duomo, si avvicini gente e dice perché il mondo è sempre più distaccato, eccetera, eccetera, dice di una persona vai e te la abbracci e ti dà senso di conforto, dai, secondo loro sono di quelle tipo hippie, gente strana, dici, che si muore a farsi abbracciare. Ma no, io ho visto la fotografia, mi ha mandato, saranno almeno senza esagerazione una quarantina di persone che partecipano, in effettive. Poi se ci sono i partecipanti, c'è gente che l'hanno organizzata, c'è la fotografia e stanno fatto con questo cartellone abbracci. E poi ci vai tu, se ti vuoi abbracciare, altra gente ti abbraccia. Ti do grazie bozzo da te, ma è la pasta o cosa vuoi tu? Robert. Dimmi, Clara. Mi chiamato, ciao, già. Ciao. Sì, no, stiamo con la roba, Clara, mi passa quando vuoi per fare quella roba. Vabbè, domani mi avvicino, c'è un vuoto, ciao a tutti e due. Ehi, sono qua, rimango un pochettino. Cos'è, l'hai preso? Già. Una cosa strana sembra, pari, come si dice, una bagliacciata. Una bagliacciata, entra su internet, sui forum che ci sono di questa cosa qua e ti vedi tutte le immagini. In Italia l'hanno fatta tantissime volte in continente, nelle grandi città, e all'estero non ne parliamo, paesi tipo Spagna, Stati Uniti e cose del genere, è normale già da qualche anno, però questa è la prima volta che la fanno, questa degli abbracci. La solidarietà si può avere in altri modi, no? Solo abbracciandosi con persone che non conosci. È una cosa un po' assurda. Non so, una cosa strana, però tu già lo sai come funziona. Queste cose, persone qua molte volte hanno delle idee particolari sulla vita e sull'amore, cose del genere, dice io c'è un mondo come si chiama, scarso, dove c'è scarso amore fra la gente, sempre più distaccato, eccetera, eccetera, e facciamo vedere che non è proprio così. Oppure quelli che si mettono nudi tutti insieme e si fanno la fotografia, o quelli che si sdraiano e si coricano in terra così per protesta, per far vedere, e se li chiedi per quale motivo non lo sanno neanche loro. Comunque questa manifestazione l'ho sentita di sfuggita qualche giorno fa, è una cosa interessante comunque. Paga, ma tu saresti propenso a partecipare? Aspetta, non ti ho sentito bene, c'ho la porta aperta e non ho sentito, ripeti. Ho detto, saresti propenso a partecipare? Sì, è una cosa interessante, l'ho già detto, il discorso devi farla in un posto carino e sperare che ci sia una bella giornata, perché se la fai una giornata di Puggi c'è una cagata, rovini tutto. Ci vuole una data di riserva secondo me, per dire, farla per dire una domenica questa, come riserva la successiva, se non se c'è brutto tempo. E vabbè, purtroppo il tempo non lo comandiamo noi, lo volevamo fare in piazza. Guarda, in Piazza d'Italia, secondo me anche abbinandola c'è la, come si chiama, il mercatino dell'antiquariato, la fanno l'ultima domenica del mese, dove ci va un po' di gente. Poi c'è una cosa interessante abbinarla con la manifestazione lì, in Piazza d'Italia, secondo me. Sarebbe bello anche Piazza delle Segne, però è troppo dispersivo, è troppo grande. Ma lì sarebbe bello perché puoi mettere una bella antenna, portare una strumentazione più sofisticata, nel senso fare un bel banchetto, un gazebo, una cosa del genere. Però Piazza d'Italia è più elegante, secondo me. Poi chi l'ha per fare deciderà lui. Vabbè, il gazebo tutto quanto ce l'abbiamo già, ce lo danno, quindi non c'è problema. Il tavolo, il gazebo, eccetera. In bar ci vuole solo un po' di iniziativa a farlo partire, per sa cosa dire, domani si fa, ecco, quello lì. Ci vuole solo quello, perché poi devi pagare 2 euro a testa di marca da bollo, non è che siano queste grosse spese, dai. Una cosa a cui teniamo, quindi è bello farlo vedere come funziona, come gente che interessa, magari a chi chiede di si illustra la cosa, come faremo anche dei volantini, eccetera, eccetera. Sì, no, diciamo la spesa è più che altro la richiesta di autorizzazione al comune, una marca da bollo mi pare che ci vuole e basta. Poi si deve organizzare magari con un palo telescopico per risollevare un'antenna, magari metti una mini grand plane, ce n'è una io, oppure la prestare, la posso prestare io, una piccolina, tanto devi fare soltanto una prova, poi magari qualcuno rimane a casa, che modo che ti possa anche rispondere. Sarebbe bello coinvolgere anche magari qualche radioamatore. Secondo me il giorno più bello è quando il giorno della Befana, che ci sono anche i vigili del fuoco, che loro fanno quella discesa della Befana, l'hai visto, dalla provincia, fare una cosa del genere, oppure abbinarla a quel mercatino dell'antiquariato, che per dire ci viene un po' di gente, lo sa la gente, della scusa per vedere coinvolgere anche la gente, perché magari se lo fa una giornata anonima non ci viene nessuno, solo di sfuggita, ma non che non ti butti tanti volantini su sassari, ma non è la stessa cosa. Io sono contrario, gli amatori fanno le loro manifestazioni, a noi non ci vogliono, quindi facciamo una cosa CB e basta, 27 MHz, e niente, poi il fatto di farlo quando c'è la cosa da Befana potrebbe anche essere una cosa buona, un problema. Sì, no, dico, la Befana per dire che è una festa, che in Italia c'è sempre gente. Perché fare la periodica normale la prendono come una cosa ridicola, goliardica, magari non viene ben vista, ma fatto quando c'è in abbinamento a qualche manifestazione, tipo come ti ho detto io, la Befana della Befana, oppure questa cosa, non so, i cibi che tanto c'hanno, non lo so, ci avranno un santo protettore. Santo di Strindomo, non c'è nessun santo protettore, ma è una manifestazione che vogliamo fare per far conoscere alla gente che magari si vorrebbe avvicinare a questa frequenza, apparati, non c'è bisogno di fare cose sofisticate, basta che uno si metta lì con la macchina e fargli vedere come funziona, risponde l'altro dalla macchina e via. Vabbè, ma non è che entrano tutti con la macchina, tra l'altro non si può entrare in macchina in Piazza d'Italia, magari fai chiedere autorizzazione per una macchina di qualcuno che ha una bella antenna, una cosa del genere, la metti sulla piazza e fai vedere, questa è una stazione mobile e questa è una stazione fissa, magari prendi un inverter, ti metti una stazione a 220 con un inverter attaccato alla batteria della macchina e gli fai vedere anche la stazione base, magari si cerca qualche baracchino base e tu un'antenna, se avere un accordatore d'antenna, una cosa del genere, in modo da spiegare qualcosa o almeno far vedere che c'è qualcosa, come funziona le cose basilari. Dai. Scusi, ma non è meglio chiedere autorizzazione al prefetto e piazzare un bel gazebo in Piazza Italia a fare le cose fatte bene, non da zingari? Quello che ho detto, un gazebo è con l'autorizzazione. Poi una valente futura o la sua documentazione chiede e le viene autorizzato, non è un problema. Fanno tutti in Piazza Italia, chi vende libri, chi vende quello, mercatino alloggiato, eccetera. Su Facebook, ho visto che hanno risolto un sacco di gente, io sono stato il terzo che ha partecipato in quel sito, e ho visto in pochi giorni, in poche settimane, ma anche donne, cioè non mi immaginavo che ci dice io sono mio padre, c'era il baracchino, poi altre, anche a me mi piace, io da ragazzina, ma anche gente grande ha detto c'era il baracchino, mi piacerebbe tutto quanto, ho tagliato, c'è anche vergogna, tieni presente me. Sì, ma l'ho visto dopo, perché anche io entravo in quel sito. E purtroppo sono cose che non sono andate a buon fine. Cosa vuoi fare? La cosa, la buona volontà di Antonio c'era, però non so il perché e per come non sono andate a buon fine. E adesso ci sta ritrattando Antonello a proporre la cosa, e a me mi sta bene, perché è una cosa a cui io tengo e mi va bene così. Ma poi ho visto, hanno organizzato, mi chiedo, conferma Claudio, mi sa che c'è andato anche lui, non era quel paese Moro, una cosa del genere, i CB si sono organizzati, avevo visto delle immagini, sono stato su internet, erano andati in ristorante tutti insieme, anche quella era una cosa carina. Ma pare che erano tutti camionisti qui, no? No, c'erano camionisti, molti camionisti, però per Claudio mica è camionista, credo che c'era lui e anche altre persone che non erano camionisti, mi sembra che era andato Falchetto, se non sbaglio, o qualcosa. No, la manifestazione mi sa che è stata organizzata da camionisti e cose, non dico che il Chiovi sia camionista, per carità, però vabbè, ci va come amicizia, come cose, però la festa forse era più per i, CB che hanno l'apparato a casa, eccetera, era più per i camionisti, capito? Sì, sicuramente la maggior parte erano tutti i camionisti, però dico, facendola, allargandola, non solo ai camionisti, facendola, come dici tu, a quelli che hanno le stazioni base a casa, e beh, è una cosa anche interessante, insomma, un giorno dice, io ci andiamo a mangiare una pizza, organizziamo, fatta una cosa bene, però non all'ultimo momento, organizzata un mese minimo d'anticipo, dice lì, questo è il ristorante, andiamo lì, ci fa questo prezzo, questo agriturismo, 20 euro a testa, mettete i soldi in anticipo, uno si occupa di raccoglierli e tale giorno poi si va, tanto per fare compagnia, dico. Ragazzi, ma cosa Roberto? C'è qualcuno che ti sta contando, mi lo vedo. C'è qualcuno su 10? Ora. Ma sto sentendo bene io, mi sento strano. Ma io non sento nessuno, dico qualcuno di strano. Eccoci. Che comunque è una buona iniziativa, va bene, dai. E se si appoggia e coso, poi glielo do volentieri, là. Ecco. Ma come dice qualcuno, a volte è meglio ascoltare piuttosto che parlare. E io sono sempre dell'idea che bisogna prendere i buoni consigli e portarli avanti. Purtroppo, caro Roberto, esistono quei personaggi che pur di non far andare le cose come devono, ma perché magari non le hanno organizzate loro, sono distruttivi, capito? Tendono a distruggere quello che fanno gli altri. E purtroppo molte iniziative come quella che ho cercato di portare avanti io, che poi sta cercando di portare Antonello, decadono. Io mi occupo di cose sportive, per cui so di quello che sta dicendo, e c'è veramente ragione, se la ragione al 100%, purtroppo ci sono le invidie che rovinano tutto quanto, anziché pensare che è una cosa fatta per il bene di tutti e per cercare di ripopolare, qualcuno dice no, se non sono io al centro dell'attenzione non va bene, per cui distruggo, hai detto bene. Poi ti ripeto, questo che sia ben chiaro, io con Antonello Barracuda ho avuto dei problemi che non mi va di portarli al pubblico udibrio, alla pubblica attenzione, perché sono cose che ci sbrighiamo al di fuori della frequenza, però io sono contento a tal punto che pur non portando avanti io la cosa, comunque gli sto fornendo i mezzi poter fare una cosa più che dignitosa, e spero che si faccia assolutamente. Ma io ho detto Gianni ha detto di no per i radioamatori, io avrei comportato anche i radioamatori, per quanto voglio bene alla radio, per cui tutti i discorsi radioamatori, ci sono radioamatori che hanno degli interessi a pubblicizzarli, e secondo me sono tanti, e qualche altro che magari è geloso delle proprie cose, ma io sono convinto, parlando con le persone giuste, riesce anche a coinvolgere le amature, si fanno, questo è il primo gradino per dire, le elementari, e queste sono le superiori, per capire se ti è interessata la radio, una stazione di radioascolto, far vedere un SWL, una piccola stazione di radioascolto, cioè far vedere cos'è la radio, non solo specifico CB, secondo me, cioè una cosa che la gente abbia piacere anche a vedere, non vedere quattro scimmie, dice, con un baracchino veicolare, dei soliti guasti, come dicono sempre la gente che non capisce di radio. Poi invece quando tu gli spieghi tecnicamente, allora, questo è un baracchino 40 canali con 5 watt, la legge ti dice tutto qua, dopodiché poi se devi prendere questo tipo di apparato da amatoriale devi prendere la patente, avere questo e quest'altro, cioè certo così, oppure se sei un semplice ascoltatore ti prendi un ricevitore, ma cosa ne fai? Cioè io la vedo così la radio. Almeno ditemi il contrario. Ma chi è? La patente non mi interessa niente, Roberto. Io lo sto facendo per la 27 dei radioamatori e a noi non ci hanno mai voluto nelle loro manifestazioni, non ci hanno mai fatto partecipi, quindi altrettanto facciamo noi. Ma scusa, innanzitutto faccio i complimenti a chi a casa tua si sta esibendo in questo O Sole Mio, Strati Agore, in flauto dolce. Dopodiché io dico, ma cioè cosa ti toglie con una persona che comunque si mette nella condizione di voler organizzare qualcosa di costruttivo? Sempre meglio di un giudizio distruttivo che ti mette nella condizione di non far niente. Io tanto di cappello a chi sta impiegando il suo tempo e spero che porti a buon fine la cosa, capito? Invece di avere la presunzione di dire, siccome ho la possibilità di andare su altre frequenze, cosa comunque non sa da fare. Facciamo le persone serie, per cortesia. E infatti ho detto, Gianni, tu la vedi, ti piace il CB, anche a me piace il CB, sono il primo a dirla sicuramente, però non c'è niente secondo me di male a dei radioamatori, certamente se loro fanno una manifestazione dei radioamatori un CB non ci fa fare niente, perché su quelle frequenze non ci può andare, però viceversa un radioamatore può andare utilizzando i mezzi specifici nelle bande cittadine, nessuno glielo vende. Per quello sto dicendo, per capire alla gente cos'è la radio, che non è solo il CB, ci sono tante altre situazioni diverse. Non so se vuoi riprendere Antonio, vi sto ascoltando. Vabbè, commenta anche tu Claudio, sono cose interessanti, puoi parlare e commentare, molte volte può essere anche costruttivo. Non so se vuoi ribadire Antonio, visto che stava dicendo qualcosa, perché io poco fa ho fatto un intervento, ma a livello non distruttivo, per carità, mi consiglio, come eravamo già in onda diverso tempo fa, no? E quindi ho detto la mia, ma l'operatività, l'uso, la gestione di tutto ciò che appartiene al mondo radioantistico è giusto che sia un po' più vasto, nel senso che, come dice Roberto, per Gianni va bene così. Il lobby per tutti, sia per il radioamatore che per il CB. Io sono CB e sono anche radioamatore. che tu hai invitato gente eccetera eccetera a quel contest, non lo ricordo bene, ma mi ricordo anche che qualcuno ha avuto da ridire perché si sono avvicinati in CP. Gianni, ottima risposta, questa non l'aspettavo, ma era una cosa diretta a me. Tu sai benissimo che nel mondo della radio purtroppo ci sono i buoni e i cattivi. Io sono stato non aggredito, ma posso dire molto di più. Per il semplice fatto che qualcuno a livello molto alto dei radioamatori si è permesso di dire che cosa ci fanno i CB. Io lì non ci ho visto più, l'ho attaccato, gli ho risposto e quando io rispondo poi faccio male. E quindi chiaramente era una cosa a livello personale tra me e il presidente della sezione a Sassi, dopo poi sono intervenuti altri eccetera eccetera, ma mi sono assunto io le mie responsabilità dando ancora oggi le dimissioni della sezione Ali, quindi penso di aver fatto solo il mio dovere. Sì, grazie. Ma è appunto in base a quello che io ho risposto a Roberto, per me non sarebbe stato nessun problema, ho visto considerato che se veniamo trattati da pezzenti non mi sembra il caso. Sì, Gianni, ma non è questione di pezzente o lasciamo le frasi dove devono rimanere, è questione che loro hanno sempre ribadito, a differenza mia hanno sempre ribadito il fatto che loro sono un gradino più alto e noi siamo un gradino più basso. Questo l'ho ribadito in persona, mi sono attaccato come cani, ci siamo poi messi tranquillamente a posto, perché la persona con la quale io ho avuto il desiderio è una persona che io ammiro da sempre e di più, c'è stato un attimo così di confusione, poi si è rimesso tutto a posto, però diciamo che non è successo niente, io mi sono sentito toccato perché faccio la mia parte in radio, l'ho sempre fatta, sia da una parte che dall'altra, mi sono sentito toccato e quindi doverosamente ho dato le dimissioni della sezione e non ne voglio più sapere. Sono tranquillissimo, sereno con me stesso, sereno con tutti, entro e vi saluto ogni tanto, ma la mia assenza è dovuta un po' a tutto ciò che ho macinato in tutti questi anni, tutti i colpi che ho preso, quindi non voglio più entrare in discussione con nessuno, starmene dalla mia parte, però giustamente quando sono discorsi interessanti come questo di stasera mi fa piacere partecipare. È una cosa molto molto bella questa iniziativa, per rispondere a Antonio, giustamente è un'iniziativa già portata avanti tempo fa, che qualcuno ha cercato di non portare avanti, di non far portare avanti, insomma di mettere le cose un po' indietro, e lì ci sono anche io perché c'ero e quindi non ci sono stato più, perciò se riuscite a mandarlo avanti è una cosa molto molto bella, molto interessante per tutti, però fate le cose fatte bene, perché quando ci sono queste manifestazioni è bello far vedere veramente ciò che la gente vale, ciò che la gente ha, ciò di tutto quello che appunto è un hobby portato avanti con tantissima voglia di fare, ma soprattutto molti sacrifici. Brode, eccolo, sono qua, mi sto ascoltando. Davvero? Mi piacerà questo intervento. Ciclicamente hai saputo che io e Claudio ogni tot mesi non entriamo bene in frequenza, quindi mi riservo, anzi mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Oh, va bene, non c'è problema, non sapevo niente di tutto questo. Avanti Luca con la buonasera. Posso dire la mia? Certo, lui. Allora, io l'altro giorno stavo dicendo al torneo, Luca ciao a tutti, io partecipo perché no, se devo mettere 5 euro a testa non c'è problema, però sono d'accordo che c'erano anche gli altri, anche si è moderato interno a me, anche la Levanturi, per noi non c'è nessun problema, anzi, più siamo il meglio, Voglio capire, ma quindi non c'è la partecipazione di Antonio o la state facendo voi? non c'è, Antonio ci dà una mano con l'altro, però non c'è, indirettamente partecipa. Ho capito. Ciao Luca, buonasera. Vabbè, questo è il mio parere, io ho dato il mio giudizio, visto che Roberto voleva sapere, io la penso così, poi giustamente chi la pensa diversamente non è che si può cambiare, è una bella iniziativa portata avanti bene, sicuramente dà degli ottimi risultati, poi ognuno fa quello che crede, quello che può. Vabbè, detto non è niente a scopo di lucro, si fa per diciamo incentivare un po' la frequenza in quanto sta morendo, sia nella 27 che nella radio amatoriale, so che c'è pochissima gente, quindi ogni tanto fa piacere reintegrare un po' di gente. Certo, chiamano al telefono, rispondi. Sì. Scusate, ma... C'erano pochi secondi fa, adesso c'era Luca, Gianni, Claudio e Antonio Grosse. Ho richiamato adesso, mi sono sentato un minutino e non ne sento più nessuno. Stavo ascoltando. Hai sentito anche tu di questa manifestazione? Esprimi un parere, cosa dici tu? Io il mio parere, se volete 10 euro ve le do, ma io non partecipo, nel senso che fisicamente non partecipo, ma posso contribuire tranquillamente. No, vabbè, io sono ospite, chi sta organizzando sono altre persone, però eventualmente potrei fare una scappatina. Perché non partecipi? Per motivi di cosa? Di tempo o perché non ti interessa? Se sto partecipando vuol dire che mi interessa, nel senso che non mi interessa stare lì fisicamente, ecco, tutto lì. No, ho capito. Poi perché 10 euro per quale motivo? Se dice c'è una massa da bollo, poi bisogna chiedere eventualmente permesso alla prefettura per le frequenze, per l'uso della frequenza, perché l'unico problema secondo me potrebbe essere quello, perché chi è che ha il titolo per trasmettere di lì? Nel senso c'è una federazione, abbiamo un'associazione, no? Non è come Radio Amatori che ti danno magari un nominativo provvisorio quando ci sono queste varie prestazioni per utilizzarlo. Qua si dicono chi è il titolare della licenza. Della concessione, diciamo, CB, uno deve assumersi delle responsabilità. Beh, certo, uno giustamente chi sta organizzando penso che sia, cioè nel senso che abbia la licenza in mano con un apparato che sia in licenza, capito? Penso che sia organizzando ce l'abbia in mano questa cosa qua, ecco. Break. Saluti Salvatore, salutoni a tutti quanti. Ho ascoltato un pezzo perché sto facendo un torneo, quindi sono impegnato al computer. Ho sentito il tuo intervento e credo che sia l'intervento più corretto in assoluto. A cosa ti riferisci? Per il fatto di coinvolgere anche altri settori con Radio Amatori e SWL? Certo, il principio che hai enunciato è questo, che uno poi diventa radioamatore perché comunque ha iniziato da qualche cosa e come al solito si inizia dai gradini più bassi. E far presente un intero percorso a una persona che non conosce niente è la migliore delle cose, ovviamente. Sì, sì, io aspetto il suo parere, infatti volevo chiedere anche l'opinione di qualcun altro. Il mio parere è quello, l'ho già detto, lo ribadisco, la radio è radio, poi non esiste CB, Radio Amatori, per me è radio, la considero radio. Poi ci sono le specifiche, se tu vuoi andare per certe altre cose ti fai il salto e passi Radio Amatori, se non te ne frega niente di trasmettere, ti interessa solo ascoltare, ti prendi un ricevitore e fai l'SWL. Cioè il modo per capire che la radio ci sono tre possibilità di trasmissione. E c'è poco da aggiungere. E per lei era salutando lì la cosa, Salvatore, ma io non ho problemi, cioè chi Radio Amatori, Zingari, Marocchini, poi me li conosce tutti. Una cosa solo dico, che organizzandola bisogna farla veramente bene, vuole organizzata bene. Beh, può poco, ma sicuro da trovare una giornata adatta e una di riserva nel caso che piova, perché se è una giornata di pugile c'è una porcheria, è una cosa che la gente si ricordi, magari si fa intervenire anche la stampa, la televisione o quello che è, perché anche può essere un articolo raffresso, un giornale, però dice oggi, domani ci sarà la manifestazione dei CB e dei radioamatori e chi vuole presentare si dice l'orario, in Piazza d'Italia secondo me è il posto migliore perché si permette di accogliere la gente anche più riparata dai venti, perché al quadrato è bello, però è troppo dispersivo, cioè la gente batta con la macchina e dice chi sono questi qua, i soliti scemi, mentre in Piazza d'Italia si fermano, controllano eccetera, e anche abbinandola, come ho detto io, o la festa dell'Epifania, che è il 6, che ci sono un sacco di gente, ci sono anche vigili del fuoco eccetera eccetera, che in modo che potreste anche coinvolgere magari protezione civile e cose del genere, oppure farla in un giorno quando c'è con la, il mercatino che fanno l'ultima domenica del mese degli antiquari e ti sopra un gazebo e fa una cosa del genere. E per me va bene, è fatta all'Epifania, così tutte le radio vanno via. Davvero? Tu cosa dici, Salvatore? Sì, concordo sul fatto che perché non venga sminuita la manifestazione stessa e perché venga ricordata deve essere fatta con tutte quante le cose a puntino, quindi deve essere carina, bellina, con le cose cioè, al punto giusto e così si può anche ricordare e può essere piacevole per chi si avvicina a vedere e a curiosare tutto lì. No, adesso sono su internet, per curiosità, perché io so che esiste un santo patrono del radioamatore, devo capire chi è, così guardiamo se esiste una possibilità anche magari di farla, io stanno delle ipotesi, di farla in una data, per dire, quando c'è il giorno del patrono dei radioamatori o dei CB o della radio, aspetta un attimo. No, già ne va di chi sei radioamatore, ma la sapete, è una cosa fatta per la 27, non per radioamatori, cosa vedo niente. Ma ti spiego, io come ho detto prima, la radio, io parlo di radio, non parliamo di CB specifici, e se hai sentito tutto il discorso, è quello lì, cioè coinvolge e fa capire tutto quello che c'è, però il discorso dei baracchino, del CB, c'ha una brutta fama, la gente, i temini sono tutti porcaccioni, tutti maleducati, dove si sentono brutti, scorreggi, eccetera, eccetera, che fa capire alla gente che non è così, che ci sono delle persone che lo fanno con passione e con certi criteri e con certe cose, e fare vedere che può essere coinvolgente anche fare il CB, e non come, perché un sacco di gente quando sente uno, prende una colata nella macchina e dice, vai da Ghiso, guarda quello lì, guarda quel grezzone, cosa sta piazzato, e poi non sa niente di come funziona la radio, per quello ti dico, sarebbe bello coinvolgerli anche le categorie superiori, almeno io dico così, io non sto facendo niente, io resto soltanto, mi piacerebbe, la mia partecipazione la potrei anche dare, la mia possibilità di partecipare. Io ti dico che radioamatori qua a Sassari non ce ne sono, capito? Nel senso che cioè non sono all'altezza di portare radio, no, non ne hanno, mi capito? Radio da dare così a collo, a far vedere il funzionamento, devi organizzare bene un gruppo elettrogeno, non è così, no, non è che fai una batteria di macchina, non cosa fai? Capito, invece magari prendi 4 baracchini di quelli da 50 euro, te li muovi in visione per fare il funzionamento, capito? Ma poi penso che radioamatori all'altezza di venire più a Piazza non ve ne. Guarda, io non ti voglio fare dei nomi, ma sono convinto che qualcuno c'è, se lo chiamo e gli dico di questa cosa sarebbe ben disposto a farlo, perché c'hanno anche aspirazioni nel senso di aumentare il numero di radioamatori, non pensare che siano tutti egoisti radioamatori, ci sono delle persone che lo fanno proprio con passione, che gli piace la radio, anzi, non gli sembrerebbe bello coinvolgere l'altra gente, poi ci sono i soliti radioamatori come ci sono i CB, sono in una continuità che fanno la radio soltanto così ogni tanto per dire che c'è una patente e si mettono a trasmettere, ma quello è una. Io parlo di veri radioamatori, di persone che lo fanno con passione. Sì, ma io lo sto dicendo perché sono sicuro che c'è qualcuno all'ascolto, mi ha capito così. Sì, ma infatti da quello che stavi dicendo era chiara la provocazione. No, perché ci sono tanti radioamatori che nel 27 continuano ad entrare, tanti, tanti, tanti. Ce ne sono tanti che non ci entrano neanche, però li ascoltano, hai capito? C'è anche un radioamatore, anche lui è nato dalla 27, quindi ogni tanto se entra faccio una chiacchierata, già è sempre piacevole, capito? È sempre piacevole. ascoltare anche i consigli di loro, e capisco invece le proprie aiete, una volta che mi ha battuto nella fottina lunga del volantino. Da una parte radiola, dall'altra parte non è proprio così, perché fare una chiacchierata così di 5-10 minuti non li guarda più il volantino in mano, anzi che le radio che usano loro vanno tranquillamente il 27 anche oltre, quindi già lo sappiamo. Girare ogni tanto quando c'è gente, quando c'è qualcuno, entrare per salutare almeno, non dico di stare tutta la sera del 27, ma comunque farsi una chiacchierata tipo un paio di passaggi giusto per far sapere che c'è, e invece non è proprio così. Un secondo che mi squilla, riprendi sabato. E K, sì, ma comunque non era questo il discorso che si stava facendo. Il discorso era un discorso della portata che si poteva avere con il coinvolgimento dei radioamatori, tutto lì. Poi i pensieri personali di chi la vorrebbe cozza e di chi la vorrebbe cruda e chi dice come dovrebbero essere è un altro paio di maniche. Quindi insomma. E sono arci convinto, per quella che è la mia nullissima esperienza, che ci siano fior di persone che hanno fior di apparecchiature e che potrebbero benissimo essere anche interpellate qualora si volesse estendere il discorso che si sta facendo a costoro. Se uno non chiede non avrà mai risposte e morirà con le proprie convinzioni, per cui sono certo che ci potrebbero sempre essere delle persone in grado e punibili a rendersi appunto disponibili anche per manifestazioni del genere. Bisogna sempre chiedere, chi non chiede non avrà mai risposte, per cui tutto il resto sono proprie convinzioni. Quindi Robert. Guarda, tirando gli orecchi a Massimiliano, in questo momento c'è un radioamatore che sta parlando, che ha parlato, anzi ce n'è uno qualche minuto non fa che ha parlato, che probabilmente ha l'ascolto, per cui qualcuno che si abbassa, ce n'è a 27 c'è, e ce n'è anche più di uno. Purtroppo, come ha detto lui Massimiliano, ci sono delle persone che una volta hanno preso la patente e sembra che sia dispregiativo farsi sentire in 27, secondo me anzi. Da tutte le parti andrei, oltre che il 27 andrei anche in altre frequenze, magari dove normalmente ci va pochissima gente, tanto per farmi sentire, è quello il discorso. Comunque il stato padrono del patrono del radioamatore lo sta guardando su internet, Massimiliano Colbe, Massimiliano Colbe da Bazzale, è morto il 14 agosto 1894, martire, per cui la possiamo fare il 14 agosto, bene male che vi do i candelieri, mi pare, no? Così. Sì, non ci viene nessuno. E non ci viene nessuno, tranquillo al 100%. Ma lo so, io ha capito bene Salvatore, io ho parlato così come provocazione perché sono sicuro, ma non al 100, ma al 1000 per 1000, che ce ne sono tanti in ascolto. Però non sono all'altezza, capito, loro sono un gradino più in alto, ma la passa asciutta la maniera da imbascio, però. Va bene. Io un altro rematore, questo è un pirata. Per la strada sono visto. Comunque, vediamo. Io parteciperò. Poi, vedremo. Quello è, se vi devo una mano a mettere qualsiasi cosa, antenne, mi faccio un bipolo a zetta come giorno. Mettiamo in moto lo zip là vicino, compriamo il 10 euro di miscela per Cosio, per Luca, se siamo meglio, non ci basta la batteria della macchina. Sì, che se la tiene in moscia, Ma da qua che c'è un periodo io, proprio tu il periodo iniziato, c'avevo lo zip lo stesso, usavo la batteria dello zip, ma c'avevo tutto mi durava, sono Massimiliano, facevo sì o no 20 minuti di baracchino, poi la buttavo a terra, allora lo facevo, la ricazzavo, facevo un giremoto, facevo un rimettatore, non c'avevo, facevo un giremoto, ma di buia avevo uno da 2 ampere, mi sa, non ce la facevo a pilotare il baracchino, allora facevo un giremoto, ma ricavo non io la batteria, cioè spendevo un mezzo di benzina. Per quello ho detto ti compriamo 5 ore di miscela, non c'è mai la batteria che portano e vediamo la tua. vicino, come te la passi? Dimmi qualcosa di buono e di positivo. Di buono ancora nulla, niente di che. Comunque, tutto sommato, siamo sempre lì, dai. Siamo sempre lì. Qualcosetta, ma poco, dai, poco. Sto chiedendo in giro anche se capita, ma adesso non è periodo comunque di fare lavori in casa, tipo pittura, cose così. Comunque appena. Aspetta un attimo, adesso stessi no. Comunque appena sarà il periodo, ma è un po' più caldo, però un po'. Ci dobbiamo buttare a tutto. Stavo aspettando, ancora niente di positivo, dai. Bravo, al contrario. Vabbè, pazienza. Sono fiducioso che qualche cosa, Luca, ti uscirà, dai. Cosa ti uscirà, per bacco. Riprendilo bene. No, prendiamo un'app e modifichiamo un'app, li mettiamo il canale carico di batteria, vedete? E poi portiamo i lineari. Una sta raccolta, la mettiamo sotto. Una per 50, robe. Una per cross, mi chiediamo alla agricola. Ah, Valentino Muglia, Cavasà. Ecco, dalla città di ferro. Davanti, città di ferro, ascolti, città di plastica, cambio. Buonasera. Ciao, Alessia. Cappa, buonasera, circolare a tutta la ruota, canale 10. Sandro Modolante qui dalla città di ferro. Se non ci arrivo io alla città di ferro. Vento nastro. Ascolti, città di ferro. Ciao Luca, buonasera, ben ascoltato. Ti ascolto, ti tiro fuori, però non al solito. Allora, ho problemi di antenna, quel vento che ha fatto, quel vento che c'è adesso. Stavo uscendo solo col capo, quello adesso. Ehi capo, allora se sei col capo va più che bene. Ma non per niente, tu stai arrivando a Santiago 9 qua, sparato. Stavo che tu mi ascolti in basso. Ehi Luca, io ti dico quello che mi dice lo Smitter. Santiago 5, Radio 5, chiedi così. Ma buona, no, ma interessante che ci sia la radio, poi dal segnale poco mi da futti a me. Avanti Claudio, non so chi c'è rimasto. Io rilascio a Claudio e poi gira lui, avanti Claudio. Ma non c'è Massimiliano di Benito, fai girare, dai. Sì, dai, a positivo, salutando anche a Gianni che è entrato. E a Sandro con la buonasera, anche qua c'è un po' di freddo, ma sono sicuro che stanotte, secondo me, qualcosina di acqua la butta, dai. Riprendi Sandro e fai girare per chi vuoi. Cappa, dai, ok. Ma diciamo che anche ha abbassato la temperatura più lento, ma l'ha accennato. Va bene, ok, chi c'era? Roberto e poi mi sembra Salvatore, se non sbaglio, correggetevi. Ciao carissimo, e salutoni anche a Doppio Room che prima non ho avuto modo di sentirti, poi so che dovevi ricevere una telefonata. Ciao Sandrino, come la va? Sì, dalla mia ragazza Lucrezia. Ciao Gianni, scusami se non ti ho messo in lista, ok. Ciao a te Gianni Doppio Room. Avanti. Ciao Salvatore, ben ascoltato dopo un po'. Ma che dirti, tiriamo avanti, pensiamo al lato positivo, il lato negativo cerchiamo di lasciarcelo alle spalle e nient'altro. Che è stato uno, mi sentite, avanti? Sono io, siccome stavo facendo una prova al mio apparato, volevo sapere se mi va bene. No, se tra fischi, avanti, riprova. Che è questa che ha parlato lui? Non so, Roberto. Avanti, la Greco L, avanti, buonasera. Puoi prendere voi, ma la telefono, se non mi sente, è il macchino sordo. Anzi, Orlando, ottimo, macchino non va. Vai, Roberto, vai a riprendere. Avanti, che ha chiesto un controllo di radio. Buonasera, comunque, Alessandro, fa Roberto a questa parte. Buonasera anche a Salvatore e a Massimiliano, che l'ho salutato. Non ho avuto il tempo di salutare. Avanti di Greco L con la buonasera. Ragazzi, stanno guardando l'apparato come fischia. Andare, ci su internet ce la sono molti, se non va bene, vado a comprare un altro nuvola. Avanti Massimiliano. Non le piace. Cosa Massimiliano? Se c'è la sagra del fischietto. Ah, no, pensavo che non gli piacesse la mia voce. Che io sono la voce calda della frequenza. Cambio. Già nel caldo, usi. No, comunque sto facendo la 48, mi sentare se mettete 5 euro in più, così ve lo portate lì. Vabbè, ti diamo 5 euro e ce lo dai. E a testa però, dipende quanti siete, se arrivate a una cifra. Ma quale sta vendendo? Quello modificato? Sì. No, non lo vendere. E la vedevo. Se ne pinti di Massimiliano. No, no, non è perso, tranquillo. Quando l'ha finito là? Quale? Quello che stava facendo da via. Ma ieri si dice, no, non ha finito, cioè è già tutto piazzato, manca solo da mettere la pasta nei finali, nel fusibile, interno, quello interno, quello che va interno, vicino ai finali, poi è finito, sì. Vabbè, ti lo sono fatto allora. Sì, no, penso che domani sera me la dovrebbe dare, là. Vabbè, là, meglio così, poi ciò che finisce bene, ma stai attento, cosa buona. No, c'era Sandro poco fa, l'ho salutato, ma ne tutti Sandro? Chiappa, ciao Roberto, buonasera, ben ascoltato. Certo che ti ascolto. Diciamo che ascolto tutti, dai. No, pensavo non avessi ascoltato perché ho salutato prima, insomma, forse non riuscivo, perché sono un po' questa radio, non la sto facendo andare, non volevo, ho detto, in grande distanza che non riuscivo ad arrivare, comunque sta arrivando, dai, già qualcosa. Eccomi, scusatemi di nuovo, ciao Sandro, ciao Roberto, e anche a Gianni, scusatemi se mi sono spostato di frequenza, ma ero sui 1003. No. Ciao Cronne, nonché Antonio, buonasera anche a te. Stai oltre evadendo? No, i 1003 sono telefonia mobile, lo puoi fare anche tu, 900 o 1003. Ce la neve però, 1300, oltre 1200 ce la neve. Va bene, va bene. Roberto, riprendi, no, ti ascolto, va benissimo, come sempre, almeno il tuo solito segnale, la tua solita radio. Sì, no, dammi un controllo di Santiago, quanto arrivo di là, portatore? Allora, da parte mia, sì, Santiago 9, una radio di 5, va bene. Se 9.15 con picchia 9.20, radio 5. Ciao, dai, già va bene. Già va bene, bulldozer. Sempre ok. Schiaccia un attimino che mi sono distratto Gianni. Ma guarda a vedere. Cazzo, sei più veloce della luce. Santiago 9.5, quasi 9.10, però la radio è impastata. Perché? Che Magnendi sicuramente sta mangiando. Ciao Massimiliano Bulldozer, scusami se non ti ho salutato. Scusate anche me, mi sono allontanato così velocemente, mi ero al telefono. Buonasera a tutti, da Claudio Sparviero, buon proseguimento a tutti. Opla, ci sentiamo. Riprendi, ma Bulldozer c'è? Negativo, avanti Roberto. Massimiliano c'è la risposta, c'è anche Salvatore che è in pausa. Avanti Salvatore, parla un po' tu. Carta. Ascolto, ascolto, ciao Grode. Ma cos'è la settimana della polemica, Grode? Oh, negativo, negativo la settimana. Non, il CB è l'acronimo non solo di Citizen Band, ma sicuramente anche di Polemic. Assolutamente sì. Fra l'altro ho saputo della tua comparsa, della tua iniziazione sulle alte frequenze, così è. Allora, dagli e ridagli, che anch'io nel baratro sono finito. Ma infatti per non sbagliare, siccome mi stava entrando troppo freddo dalla finestra, perché ho montato l'antennina che mi ha fatto Massimiliano nel balcone, adesso infatti è tutto spento perché stava entrando una Siberia non indifferente, e ho optato per una più rilassante quanto in termini di temperatura più piacevole, radio locale. No, ti ripeto, non era una questione di polemica, è che mi sono reso conto, non so per quale motivo, che a volte nei confronti di chi vuole portare avanti determinate manifestazioni costruttive che mirano comunque a fare al godimento della comunità, poi dei CB, chissà perché ci sia questo atteggiamento negativo, sia quando ci avevo tentato io, che forse era stato in un momento dove ancora i tempi non erano maturi, sia adesso che, e ripeto e ribadisco, con una persona con cui io non intraprendo rapporti, ma che ha tutto il mio appoggio logistico dal punto di vista materiale, del materiale che può servire per portare avanti questa iniziativa, perché comunque lo sta facendo per il bene della comunità. Poi chiaramente, come dice Claudio, deve essere fatta con tutti i crismi, nel senso che bisogna evitare di far ridere, di andare lì e far ridere, ma questa è l'idea, cioè sicuramente non sarà tutto giusto e perfetto, ma essendo la prima cosa che stanno facendo, diciamo che è concesso anche che le cose non siano esattamente quadrate. Pronto? Ciao Massimiliano. Ti ho sentito da lontano e niente, là, non potevo riprendere, e c'era mia figlia che mi stava dicendo cose. Ciao Gaba. Dai, salutoni. Figlia K, fa salute, dai. Ma sei in quella X? No, dai, sono rientrato in ruota e niente, no, mi sono lontano un secondo, ho sentito mi chiamavi, ma non potevo avvicinarmi alla radio, tutto lì. Ok, no, so già tutto il discorso, io già partecipo, diciamo, finanziariamente, nel senso se c'è da mettere qualcosa, ma non fisicamente. Io ho messo a disposizione quella che è la mia strumentazione, la strumentazione di lavoro, nel senso servirà un gazebo ed è pronto, non c'è problema. Metto a disposizione anche la possibilità di avere dei cartelloni dove ci saranno delle spiegazioni su come è nata la CB, su come si diventa un CB, nel senso quali sono i pochi documenti che devono essere fatti. Io non vedo perché debba dare fastidio questa manifestazione a chi che sia. Poi alla fine, prima di diventare radioamatore, io credo che scagli la prima pietra chi è diventato direttamente radioamatore. Io credo che un minimo di infarinatura ce la debba avere un radioamatore per poter fare il radioamatore, e questo avviene esclusivamente dalla scuola, dalla libera scuola della CB. Poi è normale che uno si deve sgravare delle scorie che purtroppo ha preso durante un certo tipo di modulazione, un po' meno educata, un po' meno, diciamo, aulica, però per andare in, come si dice, in Kawasaki prima devi andare in sì. Poi sono pronto ad accettare le critiche di chi non la pensa così e comunque rispettarle. Riprendi Salvatore. Ma io non credo, Antu, che ci sia nessuno che pensi ciò. Ti dirò, non ci credo. Sarebbe ora un controsenso, per cui non credo. Secondo me più che altro queste cose succedono per fraintendimenti e per avere steso significati a parole che dovevano essere prese così come sono state dette, senza pensare alla cosa più negativa, perché non credo che ci sia nessuno, Anto, che in fin dei conti voglia impedire o ostacolare un'iniziativa del genere. Le iniziative vanno sempre premiate, qualunque esse siano, poi possono andare male, possono andare bene, ma credo assolutamente, sinceramente, per il resto penso che siano possano solo nascere delle inutili polemiche, ma il più delle volte è dovute a delle incomprensioni, semplicemente incomprensioni sui termini e sulla portata delle parole, tutto lì, ne sono arci convinto, guarda. Oh, Antonio Crote. Eccolo. Caffa, se non sono troppo curioso, di che si tratta? Diciamo stanno riportando in auge un'idea che era nata un po' di tempo fa, sempre dalla comunità del canale 10, forse in questo momento i tempi sono maturi, io me lo auguro per chi sta portando avanti la cosa, lungi da me volere ostacolare la cosa, ma anzi non mi sembra vero, perché non rinnegherò mai, e dico mai, e che mi venga fatto notare se un domani a qualcuno dovesse avere la parvenza che questo stia accadendo, non rinnegherò mai di essere stato e di essere, perché non è che quando acquisisci la patente di colpo sei e quindi devi discriminare gli altri che non ce l'hanno, oppure ti metti nella condizione di rinnegare quello che è il passato. Io sono sempre un CB nel momento in cui modulo sui 27 MHz, nel momento in cui andrò su altre frequenze, mi presenterò con il nominativo a radioamatore, ma non è quello, non mi nobilita. La nobiltà secondo me è una sola, che è quella d'animo, di sapersi relazionare con le persone e di comportarsi in maniera educata. Quindi non è una patente che me lo dà, quindi non vedo perché alcuni si ritengano facenti parte di una casta solamente perché hanno preso un pezzo di carta, che poi, dico, è accessibile a tutti quelli che si mettono nella condizione di studiare. Ehi, capo, dai. Capo, ok, va bene. Ma no, come discorso, diciamo, la fa una piega. Logicamente tutte le iniziative sono ben accette finché siano portate, diciamo, a un obiettivo ben preciso, logicamente. Io un po' per esperienza, diciamo, nel passato ho vissuto, diciamo, queste vecchie esperienze, partecipato, non partecipato, mandato avanti e quant'altro, soltanto che c'è chi la pensa in una maniera, chi la pensa in un'altra, quindi non ha, o perché non ha le idee ben precise di ciò che vuole mettere in gioco, o per questione di carattere o per questione di mentalità. Sono tante le cose, perché si potrebbe fare tanto e con poco, delle volte anche con niente, volendo si potrebbe fare, soltanto che per esperienza vissuta vi posso dire che non è così, perché c'è chi la pensa in una maniera, c'è chi la pensa in un'altra, c'è chi sale di livello, pensa che salito di livello possa pensarla, reagire e parlare come meglio crede. C'è chi invece si tiene sempre con le sue linee e la pensa in una certa maniera, ma crede. No, ma io credo che sicuramente su determinate frequenze, ma perché? Perché stiamo parlando di frequenze diverse, dove è normale che si debba tenere un contegno diverso, che è un aspetto sicuramente positivo della cosa. Ci sono delle frequenze un attimino, fra virgolette, più libere, ma perché più libere poi alla fine? Perché uno qua è più libero di parlare in un certo modo? Cosa che per legge, se leggete la concessione CB, che non è una concessione ma ormai è una tassa governativa, c'è scritto che bisogna usare comunque un certo tipo di linguaggio, bisognerebbe usare un certo tipo di linguaggio. La verità è che qua, avendo non un nominativo registrato e tutta una serie di cose, c'è più libertà di poter andare contro le leggi e quindi di comportarsi in maniera un attimino più frivola. Però se la CB viene presa in maniera seria, non ha niente da invidiare alla radiantistica radioamatoriale, se non per una questione di utilizzo di apparati, dove da una parte sicuramente puoi ambire a varcare gli oceani, dall'altra magari varchi il quartiere, ce n'è anche troppo. E si conferma, ma infatti è tutto ciò, perché diciamo in banda radioamatoriale usi un certo gergo, usi un certo comportamento, allora quel gergo lì perché non lo usi anche in 27? Diciamo che la 27 è la madre della frequenza, il radioamatore è nato dalla 27, e allora diciamo perché non si esegue, diciamo, questo comportamento tutto lì? Vabbè, lo prolunghiamo, facciamo girare Roberto. Posso risponderti, Sandro? Buonasera, Spaviero. Sì, dimmi. C'è un bit, forse vuole entrare. Devo registrare, adesso ti faccio passare, io bisogna ascoltarlo comunque. Non ci sono problemi, non mi sento toccato in nessuna maniera, ma il discorso è forse molto semplice, scusa che abbasso le. forse in quegli anni nessuno ci ha curato, ci ha detto quello che dovevamo fare e come dovevamo comportarci. E quindi allo stesso tempo abbiamo portato avanti questa iniziativa con la nostra bocca e la nostra personalità. Diversamente è dall'altra parte che, come ha detto Antonio, quando sei registrato, sei seguito e sei messo appresso da persone che continuano ancora oggi a sputare il piatto dove hanno mangiato, è chiaro che c'è un disvelo diverso secondo il mio punto di vista. Cappa Spaviero, sì, ma è questo il discorso, ma allora se noi torniamo indietro 15 anni fa, diciamo, quando più o meno abbiamo iniziato a modulare con la 27, chi comportabile, chi con mezzi di fortuna o quant'altro, diciamo che vabbè, la 27 era molto più popolata, era molto più frequentata, oggi diciamo che ha perso moltissimo. Però diciamo che ai tempi diciamo c'erano le portanti, c'era chi faceva gli scherzi, c'era chi faceva il suo corseo tranquillamente, pacificamente e quant'altro. Questo, quello che esiste oggi esisteva 10 o 15 anni fa. Logicamente 15 anni fa era più una cosa più aperta, non è come a livelli di oggi. Posso intervenire io, scusatemi, ma Sandro, vero è che anche che il 70% di quello che non c'è più in 27, il 70% era mondetta, era gente, erano bulletti o ragazzini che facevano casino, si teneva il periodo, mi ricordo, di Natale, perché veniva regalato il baracchino e quindi c'erano quei 3 mesi dopo i quali le persone si stancavano e lo mettevano da parte, però questi ragazzini che per 3 mesi mettevano portanti, non sapevano fare un QSO e tutta un'altra serie di cose. Io fra l'altro ho apprezzato anche che da un paio di settimane a questa parte stavo radio ascoltando una persona e mi sono reso conto che finalmente gli ho visto fare un QSO come si deve. E me ne compiaccio, pur essendo una delle persone con cui non intrattengo rapporti. Comunque, secondo me, è vero che siamo pochi, ma diciamo siamo pochi ma buoni, fra virgolette. Ciappa, questo ti do pienamente ragione, ti do pienamente ragione. Sì che 10 o 15 anni fa il baracchino si regalava a Natale e non ti do tutti i torti. Quindi diciamo la 27 era più che chi ne poteva fare, diciamo, a Gugu, capito? Comunque, diciamo, secondo me la 27 è colei, diciamo, che a determinate persone ha portato innanzitutto la passione a andare avanti, diciamo, a prendersi il patentino, a fare il salto di essere un radioamatore, diciamo, a fare i passi piano piano. E tutto ciò. Va bene, chi c'era rimasto? Salvatore. Eia, stavo pensando una cosa, ecco un buon motivo per non farla prima di Natale. meglio alla Boffata. Oddio, se viene fatta un'iniziativa del genere promozionale prima di Natale, ti trovi un casino di gente che regalerà il baracchino ai figli. No, scusate la risata, stavo pensando a questo. Sì, ma guarda che era così, prima al posto del telefonino i ragazzini, ma ti parlo degli anni 80, quando c'è stato force il boom dei baracchini e della CB, è stata negli anni 70. Però quando c'erano gli strascichi ancora, degli anni 80, ma il primo regalo che si chiedeva, ma perché si era visto a casa dell'amichetto, perché si era visto nei Boy Scout, tutta una serie di cose, era il baracchino. È inutile dirlo che con l'ultimo dei baracchini comunque rompevi le scatole a quello che aveva magari apparecchiature molto più all'avanguardia o comunque molto più costose. Ed il boom di questi regali della rottura di balle era sicuramente il periodo di Natale. Ma ci dovremmo aspettare, con piacere o meno, che nel momento in cui adesso si farà questa manifestazione, e io mi auguro che si faccia, e ripeto, dal punto di vista logistico, le persone che stanno organizzando hanno tutto il mio appoggio. entrerà tanta di quella mondezza che avremo difficoltà di nuovo a riportare le cose a un quesito normale. Io vedo che adesso come adesso siamo più su altri, sul canale 10 che su altre frequenze, questo non mi può che far piacere, perché sicuramente rappresenta lo spirito della radiantistica, che è quello della libertà, cioè di non dover essere incanalato in dei binari oltre i quali non puoi andare. La vera libertà si esprime su questa frequenza. Sì, se posso, Anto, però il termine che hai usato già per l'ennesima volta è mondezza. Non devi usare mondezza, nel senso che è dire che potrebbero, si rischia che entrino delle persone, dei neofiti che, non sapendo come parlare e utilizzare la radio, corrono il rischio di disturbare, perché se no, se parti con questo presupposto, allora non ha senso fare l'attività promozionale, perché se uno sa che facendo l'attività promozionale in realtà ha più problemi che aspetti positivi, allora non avrebbe senso. Permettimi se ti faccio questo commento. Diritto di replica, siccome non mi riferivo assolutamente ai neofiti, purtroppo mi riferivo alle persone che a quella mondezza degli anni 80, e permettimi di utilizzare questo termine, che sicuramente non faceva parte della crema della CB, della crema, della crema, della schiuma della CB. Come inizieranno, io mi spero saranno più neofiti che vecchi CB, perché i vecchi CB, quelli appassionati alla radio, come Claudio, come altre persone che popolano tuttora la 27, a tutt'oggi modulano, sono le persone che poi, vedi, si comportano bene, tranne qualcuno, e questo mi riferisco a te, Claudio. Ti stavo dicendo, però ci sono molte altre persone che non hanno più trovato appiglio alla loro maleducazione, non hanno più trovato sfogo perché si è un po' prosciugata le presenze nella 27, e quindi hanno riposto il baracchino all'interno del cassetto. Questi qua, nel momento in cui riprenderanno questo baracchino, non sarà cosa piacevole, ci sarà la solita guerra dei portanti, la solita maleducazione, che bene non fa sicuramente a chi è neofita e chi non ha ancora capito come si deve modulare in frequenza. Poi sono in silenzio io. Per ora. Non si possono dire parolacce qua, comunque c'è un grande capo di bagnetta, tu. Un giocatore imbattibile, Massimiliano, Perché cosa ha detto? Che mi ha sovramodulato sicuramente. No, prima ha fatto un discorso, sembrava che si fosse preso un acido. Senti cosa mi ha detto? No, negativo. Come ha detto, ma non male se ne scegliete, lui era ora, siccome non si posso dire parolacce qua, l'ha detto, c'è un capo di bugnetta. Va bene, comunque Anto, ben vengano, ti ha detto. Io adesso stavo ascoltando e mi hai fatto tornare indietro con i tempi, diciamo, forse Claudio se lo ricorda, forse qualche CB in ascolto o se lo ricorderà quando Paro Torres si era formato, diciamo, l'associazione CB, diciamo, la sede Ex Shell, vecchio stabile, Rinarino, e dove si facevano, diciamo, diverse manifestazioni, forse Sparviero se lo ricorda, e qualche don altro in ascolto pure. Io rispondo a questo in silenzio, perché non voglio dare merito ai vecchi ricordi. Però Sandro, ti ricordo che la prima associazione nata a Porto Torres, io avevo 14 anni, dove oggi c'è Radio del Golfo, via Petrarca, si chiamava Radio Club del Golfo, dove il presidente era Brancaleone. vecchi tempi, però vi chiedo un attimino di bianco, perché siccome qua a Monotone abbiamo un mitico, io lo chiamo mitico di quei famosi tempi. Ultimamente sta entrando poco, però già entra anche lui. Buonasera Giampaolo Silvestro, avanti. Io piccolino, Salvatore, ciao da questa parte. No, faccio Silvestro, questa parte grotte, arrivi, ma un po', cioè la radio è un po' pasticciata. Giampaolo, anche io ti ascolto, con gli orecchi. Anna, anche Anna hai annoiato. Ho sentito lo sbadiglio. Ho sentito Anna sbadigliare. Sentita. Sì, c'è Gianni che vuole entrare, adesso ti rilascio, sì, è passata qua nella cameretta, e ho sbagliato. Avanti Gianni, buonasera, io comunque sono qua, quando mi volete chiamatemi pure, non ci sono problemi. Ti voglio. Buonasera Claudio, buonasera a tutti quanti di nuovo. Alessandro, un secondo, puoi passare sul 15 che devo fare una prova, un secondo solo. Ok, vai. Claudio. Dimmi, ciao. Non te ne sei accorto, ma hai fatto aumentare lo spread. Io come ho detto Antonio, con Antonio abbiamo un dialogo a volte felice, a volte infelice, no? Ma è un discorso di scambio di idee, lui ritiene me quello che già mi dice sempre, ogni volta, insomma tanto non lo vedo, ma ogni tanto ci sentiamo al telefono per altre cose, quindi continua a ribadire sempre la stessa cosa, che giustamente io ormai l'ho già incominciata e quando la guardo dico ha ragione Antonio Roy. Per capirci. Però è vero anche, come ho sempre detto a tutti, perché sia da una parte che dall'altra, se io adesso dovessi muovere questo microfono e andare a parlare in 2 metri, in 5 minuti si riempie la frequenza molto di sassere e così via. Ma non voglio dire che io sia uno di quelli che trascina la gente obbligatoriamente a trasmettermi la 27. Sono magari uno di quelli che fa audience, come si dice nel mondo dello spettacolo, ma anche quindi una persona che fa spettacolo naturalmente viene seguita perché fa ridere, perché fa incazzare la gente e quindi automaticamente lì si solleva il livello dell'ascolto, tutto lì. Però è anche vero che sono nato rompicoglione e quindi morirò rompicoglione sia come CB che come radioamatore, su questo non ci piove. Quello si chiama carisma, che non significa avere un carattere positivo, nel senso positivo, che poi non è positivo, aspetta, il termine è giusto perché questo è un malapropismo, un buon carattere, non significa avere un buon carattere, significa avere carattere, che molti apprezzano meno, però questo io l'ho sempre detto, questo non è per autoincensarci, però dico sempre questo, è vero che sei un trascinatore, quello non v'è dubbio. C'era un break, avanti break. Aumenta lo char. Ah, è bello. No. Aumenta lo char, dai. Ma l'ho già trascinato, ma l'ho già potuto trascinare, non ve la fate mai stato già cinese. Non lo so, ma ci vedrà perché sto versando come un porco, sono già 100 kg, quindi non può invece picchiare con le mani e picchio con la faccia. Ci tenevi altri due magari. Io l'ho visto tirando pugni al punchball e c'è lo schiaffo discreto, e che è un pochettino lento. Io penso che tutti se la tolgono una mosca dal naso. Lento non lo puoi dire, guarda, perché non mi hai mai visto in azione comunque. Lento ancora oggi, già. Facciamola bravi. Ciao Salvatore, è diventato un incubo per me la 27, credimi. E ne ho avuto dimostrazione un quarto d'ora fa, 20 minuti fa, quando mi ha chiamato una persona e mi ha ribadito ciò che io continuo a sbagliare, a vivere e fare. Quindi per me è diventato un incubo la 27. Nell'incubo ho preferito, siccome quando apro bocca io sono sempre quello che frequenza, ovvero pochissima gente in frequenza. E questo non vuol dire perché manca Claudio Sparviero, perché manca Televodo, perché manca Gianni Oppiadum, non lo penso. Se una persona ha veramente il piacere di fare radio, che la faccia e basta, non c'è bisogno di continuare a dire sempre le stesse cose. Io tutte le volte che ho la radio accesa sento sempre le stesse frasi, e oramai sono diventati radioamatori e quindi parlo da altre parti e qui non ci vengono più a parlare. Non è assolutamente vero questo. Guarda, le persone, ma io non riesco a capire perché diate così corda a queste espressioni. Le persone li fanno sempre, i commenti li faranno sempre, non è che smettono oggi, riprenderanno domani di sicuro. Quindi voglio dire, ma non è che perché vi preoccupate così tanto di questi, di questo genere di commenti, e tu mi fai specie che ti basta qualcuno che ti telefoni che ti rovina la serata, ma aiuto. Allora, posso dire la mia? Mi date uno spazio, un due secondi. Volevo rispondere a Claudio un secondo. Allora Claudio, ti dico una cosa, allora quando tu arrivi dal lavoro, no, tu accendi la radio, non senti nessuno, chiami due o tre volte, se non ti risponde nessuno con chi parli, se non c'è nessuno, ecco, tutto lì, perché se ci fosse stato qualcuno che ti rispondeva magari, inizi, uno ti sente già parlare e ne entra un altro, ne entra un altro, ne entra un altro, ma io rientro dal lavoro, accendo la radio, non vedo nessuno, cioè non sento nessuno con chi devo parlare, con la radio è giura, fai tu, come ti rimacchi? Sì, riprende, faccio passare a Luca, sì, è vero, però io quante volte sono in ascolto, non sento neanche chiamare nessuno, qualche volta ho sentito Gianni, però sono già attivo in VHS, quindi devo avere il tempo di staccare una parte e riprendere l'altra, quante volte ti ho risposto, quante volte ti ho detto, ti ho fatto due battute, due cose, però la puntualizzazione del mio discorso è questa, che non c'è bisogno che ci sia un Claudio Sparviero, ripeto, Gianni Dottorum, o un Antonio Grobe, o un Luca, per far sì che tutti si obiettivino e tutti fanno gli ascoltoni come SWPL. È vero che se uno piace la radio, questo è il mio pensiero, attenzione, senza offesa per nessuno, perché ribadisco sempre, lo ribadirò sempre, che sono l'unico radioamatore che continua a fare la 27, ma non a Sassari, in tutta la provincia di Sassari, è l'unico in Sardegna che continua a pagare i 12 euro imperterrite per 30 anni e continuerò a pagarle sempre, tutto per far capire alla gente che a me, di quello che dice la sezione, di quello che dicono i radioamatori nei miei confronti, a me mi entra da un orecchio e mi esce dall'altro. La mia assenza in questo periodo è data da diverse altre attività che sto facendo, diverse altre cose che sto facendo, non è data assolutamente dal fatto che io voglio abbandonare la 27 e voglio ascoltare il piatto che ho mangiato per tantissimi anni, dove sono nato giustamente, come ha detto qualcuno. Questo è il mio pensiero, e che sia chiaro una volta per sempre, perché nel modo più assoluto ho un carattere di merda, lo ammetto, ho un carattere molto aggressivo nei confronti delle persone, ma non sono né permaloso né ho mania di prosopopea, sono contentissimo quando gli altri comprano, vendono e scambiano come faccio io, quindi non ho nessun problema da poter incriminare tutto quello che è il discorso che c'è stasera in questo bellissimo questo. Microfono per Luca e poi ascolto. Si può? Tu hai lanciato, vai. Allora, niente, capita molte volte, quindi adesso per esempio abbiamo, cioè, sento che non vado a vuoto, mi sta ascoltando, comunque ci sono, anche se magari sto facendo roba al computer, sto scaricando roba per il bicicla, che a me interessa di più, poi la radio verrà dopo. Capita molte volte che magari si fa una ruota come adesso, no? Si fanno di queste cose che sono interessanti, però ricordi sempre che c'è sempre un piccoglione, perché quando non c'è nessuno in frequenza, un piccoglione non c'è, ma c'è sempre uno che deve rompere le palle, come l'altro giorno, come stava portando a me, facciamo un esempio, no? Allora facciamo una cosa, facciamo la vecchia maniera, come facevamo anni fa, io uscivo anni fa, con Roberto Bandito, e uno dice ci siamo fatti, questo è quello che metteva a portata, l'abbiamo trovato, c'è il punto, però non si era sicuro se era lui o meno, perché un punto lì era micidiale, si metteva proprio la macchina, segnava. fortissimo, si spostava di 10 metri e si era sempre forte, ma non eravamo sicuri che era lui. Allora bisogna mettere di nuovo in moto la macchina, ecco, chi ha la macchina? Bisogna andare a cercare un altro personaggio che rompe le balle e poi non facciamo quelle brutte figure, perché c'è sempre, io presumo che sia una persona, guarda, non ci mette la mano sul fuoco, ma ne sono sicurissimo che quella persona lì, che è quella persona che va, che poi non le fa peggio. Comunque, prima o poi, se è lui, va a fare una figura di merda, credimi, la persona grande di età. Non so se ho reso l'idea, Comunque già ne parleremo, va. Sì, ho capito. Ma il discorso non è importante, il discorso relativo che lascia il tempo che trova, nel senso che dal momento in cui le persone sono talmente poche e si riesce a fare attività come si sta facendo stasera, dando delle risposte a dei fatti già avvenuti, è chiaro che non interessa, capito? Perlomeno a me non, c'era un periodo che mi incazzavo, lo facevo, adesso non mi interessa più, ma non perché, ripeto, voglio andare fuori da quello che è la mia passione, perché a me non me lo toglierà mai nessuno il microfono dalla bocca. Rimane il fatto che i discorsi sono diversi da quello che ha detto Antonio, da quello che si è ribadito prima con Sandro e ciò che ha detto Giampaolo. Sono discorsi che purtroppo molta gente non forse ci sono anche io in mezzo, ma per carità di Dio, tutti abbiamo un carattere, tutti abbiamo una maniera e un modo di fare e di seguire i nostri gruppi. È anche vero che a volte si accusano le persone per quello che non sono. Io non mi sento quello che sono stato accusato nel passato, nel presente, e perciò per evitare questo incubo che mi tormentava diverso tempo fa, che oggi mi sono tranquillamente tolto senza ombra di dubbio, e quindi va bene così, per me va bene. È chiaro che quando mi cercano mi trovano, non ho problemi con nessuno, e quindi lascio spazio a chi vuole fare radio in una maniera diversa dalla mia, tutto qua, non ci sono problemi. Microfono per, vediamo se c'è Sandro, se è rientrato, se c'è Gianni, insomma, fate girare voi. Allora, no, aspetta, riprendo io di nuovo. Allora, il problema è questo, che tu, andando male, volendo, noi abbiamo solo questa frequenza, noi CB parliamo, io, Gianni, Massimiliano, cioè possiamo trasmettere solo qua. Invece voi, radioamatori, quando ci sono qua e rompi i cocumeri, voi vi spostate. Me lo provo e parliamo per questa, vi spostate in un'altra, ma potete farlo, noi no. E quello è il problema. Per voi va bene, a voi non me ne frega niente, nel senso che non provo e parliamo, ci andiamo un'altra frequenza, lo potete fare, invece noi no. Noi dobbiamo rimanere qua. Là. Volendo, andiamo nei canali bassi, va bene, ma poi le persone che vogliono entrare non lo sanno che noi siamo nei canali bassi, o magari nei canali alti, capito? Tutto qua, vabbè. Comunque, io sono sempre all'ascolto comunque sia, anche se molte volte non intervengo, dipende, se non intervengo pure io, comunque sono sempre qua, mi agguato. Io vi lancio il microfono, Massimiliano, e poi girate. Quello che per me. Io invece lo faccio a Gianni, oppure il microfono passo in QRT che vado a farmi una docetta veloce e c'ho direzione Sassari. Magari rimango a ascoltare il finalino e vi saluto tutti cordialmente con la buona serata e la buona continuazione di giornata. Dai. Ci sentiamo, passo in QRT, non riprendo più, ciao a tutti. Avanti, doppio rumo. Ciao Massimiliano, buon acqua e si brecca e buon bagnetto. E anche a Drobbe, buon corrigo, ci lasciamo qua quando non rientra. Rilancio tutto a Salvatore, che è un po' che non parla, e poi farà girare i numeri. Avanti Salvatore, poi c'è anche Sandro la produttore, che è un po' in quel ascolto, lo rilanciamo subito. e K. Comunque mi state deludendo, si prestava per una bella serata di bisticcio e invece sta piano piano morendo così nel miele. Non va bene, non va bene. Sandro. Kappa. Ciao Massimiliano, buon proseguo di serata, ce la risentiamo tutte le prossimine. Mi raccomando, quando ti fa la doccia, tieni ben stretta la saponetta. Okay. Va bene, va bene. No, sabato, no. Stasera diciamo si è potuto fare diciamo un QSO dove ognuno ha potuto esprimere diciamo le sue idee. Volevo rispondere un attimino lì a Luca. Luca, purtroppo diciamo io capisco che magari ne possa essere diciamo amareggiato quando uno diciamo fa un QSO e poi subentra diciamo colui che non sa come passarci il tempo, o per vari motivi o per questo e quell'altro si diverte a mettere la portante invece di poter entrare e far parte del QSO. Però purtroppo questi inconvenienti ci sono sempre stati nella 27 e io mi auguro che non ci siano, però purtroppo bisogna consentire anche di questi chiamiamoli signori, elementi, come li vogliamo chiamare, che forse per loro diciamo è l'unico divertimento, l'unico passatempo, tutto lì. Riguardo i disguidi diciamo fra persone, fra umani diciamo ci sono sempre stati, ci staranno sempre, però io parto dal principio che se uno ha un disguido, uno se ha un dubbio, se ne può benissimo parlare, se ne può benissimo valutare, non stare lì per dire a vedere la persona di brutt'occhio, diciamo, di considerare una persona di un certo livello e questo e quest'altro. Io sono professo che i disguidi se ne possono benissimo valutare e parlare e si può arrivare anche a un buon risultato. Riguardo il resto, diciamo, partiamo sempre da ognuno ha le sue idee e i suoi modi, diciamo, da poter venire avanti sulla 27, tutto lì. Con tutto ciò io vi saluto, circolarmente a tutti quanti alla ruota, adesso qualcuno me lo ricordo, qualcuno no, e da parte mia QRT e ce la riascoltiamo tutte le prossimine. Ti prendi Claudio. Facciamo parlare di Apollo, se vuole parlare. Whatever. lavorare di tutti i giorni come facevamo un periodo, è bene che tutti quelli che hanno gli orecchi di porco, che come ha detto Luca, pensano di essere all'avanguardia di qualsiasi cosa, pur prima criticando, poi nascondendo, poi dicendo e poi facendo, e non hanno quella sincerità di affrontare le cose vere come, come la realtà. Allora mi dovete in silenzio, questo è il mio punto di vista. Comunque io ci sono sempre, per chi mi cerca ci sono sempre, quando mi chiamano rispondo, poi chi mi vuole sa dove sono, se mi deve dire qualcosa una dice faccia e ciccia. Ribadisco sempre che io non abbanderò mai e poi mai la 27. Sarò assente per motivi anche miei personali, ma sarò sempre presente con la radio accesa e quindi rispondo dal momento in cui vengo cercato. Per te, Salvatore. A venire mal di testa, Cla. Quindi ha detto bene, Antonio, quello che devo stare zitto. Il filo del discorso quando hai detto io sono presente ma sono assente e lì mi sono perso. Per lui sono presente nei cuori ma sono assente come voce, capito? Sto cercando di fare il sordo muto. Adesso sai che cosa faccio a proposito del sordo muto? Devo andare ad accendere il forno perché c'ho un muto che sono due pesci, due orate, che devo mettere sotto sale, guarda. Adesso faccio io l'assente. Beh, rilancia Lucrezio. Luca, vieni avanti, QRX per me un attimo. Esatto, Ghirao. Gianni. Ah, no. Vabbè, l'unica cosa secondo me di sbagliato che io mi sono pentito nella 27 e non fare come avrei sempre fatto, come ho fatto nei tempi passati, eccetera eccetera. Anonimo, no, mi sentivano solo in radio, nessuno sapeva chi ero e via. E si evitano discussioni, tutte queste cose qua. La cosa che facevo di buono allora era quella. Tutti avevano il coso di chi ero, di chi non ero, però io non ero molto propenso a farmi conoscere, dico la verità. Non serve assolutamente a niente, per conto mio. Per conto mio, perché ribadisco ancora una volta che anche non... pur partecipando a niente sei sempre in bocca di tutti e quindi alla fine a cosa serve non farti conoscere, fare l'anonimo per che cosa? Per far capire che sei ancora più imbecille di quello che ti reputano le persone, no, meglio farti conoscere, affrontare i fatti e la realtà, questo è il motto di Claudio Sparviero, poi se qualcuno dimostra al contrario di quello che non è la realtà o di quello che pensa veramente della persona che è andata a conoscere, allora un altro tipo di discorso, non che stavo scherzando, tu hai detto, di stare zitto. È così, comunque, i tempi sono passati, i tempi erano belli, adesso sono diversi, quindi ognuno la pensa come vuole. Io ho deciso di rimanere un po' in silenzio, dare spazio a quelli che fanno diverso tipo di attività come io la penso, come io l'ho sempre fatta nel 27, invece alla fine il risultato non ha cambiato. Morto un Papa, tutti morti. Di solito si dice morto un Papa, se ne fa un altro invece. Non ho più sentito nessuno, anche a te non ti ho più sentito, non sento più nessuno, solo stasera io ero con la radio completamente spenta, mi ha chiamato Fabrizio in 2 metri, ma io sono sul canale 10 con Antonio Rotta. Allora ho acceso la radio diversamente per me. Il risultato non cambia. Diciamo che non c'è più la frequenza di prima, ma stai sbagliando, stiamo entrando qualche sera, diciamo che entriamo magari non sul 10, ci siamo su altri canali, su 5, su 22, di 300 agenti, io mi fermo. E niente, non dico che siamo tutte le sere, però qualche volta siamo entrati. Ma anche io proprio quando esco dal lavoro, adesso tutti lo sanno che alle 7 mesi esco dal lavoro, accendi la radio, faccio una chiacchierata e cose, mi farebbe piacere. Se magari quando torno a casa mangio un po' e rientro in radio, se c'è qualcuno va bene, se no pazienza, faccio altro. Ma questi ultimi giorni ti ho sentito, non pensare che non ti abbia sentito, in qualsiasi ora sul canale 5, a te, Gianni Caprivura, Antonello, Alessio, Antonello Di Rossi, l'ho sentito. Ma è talmente quella, ripeto, anche se Antonio che sta ascoltando pensa che sia monotono e il discorso non cambia, ma non cambierà mai. Non cambierà assolutamente mai. È talmente l'incubo di poter creare problemi agli altri e quindi non mi va neanche di affrontare discorsi inerenti a ciò che è attività civica, come poc'anzi, io sono preso Antonio Ghetti e secondo il mio punto di vista, perché con la macchina chiaramente, ma ho detto una parola un po' brutta nei confronti di chi sta organizzando, giustamente chiedo scusa, ma quando ho detto di imbarazza chiedo scusa per la mia volgarità, ma alla fin fine devi andarci preparato, certo che non è che tutte le ciambelle possono uscire col buco, devono essere perfette, ma l'importante è che la ciambella sia fatta e che sia buona. Quindi l'iniziativa è abbastanza interessante, poi viene come viene, poi giustamente fatta in una certa maniera, anche lui che vuole la sua parte, ecco, questo è quello che volevo dire, forse volete migliorare ciò che prima, quindi chiedo scusa se ho offeso qualcuno. Ma per carità, ognuno è libero di esprimersi come vuole, comunque la stiamo organizzando, non è una cosa imminente, la stiamo organizzando e Dio vuole andare avanti, non è che pazienza, come tutte le altre volte che abbiamo cercato di fare qualcosa e non si è più fatto nulla. Come primis metto la mia parte, se ci fa qualcosa partecipo in attivo proprio, cioè vado, sto lì, mi espongo eccetera eccetera, non mi interessa, non interessa niente, diciamo che mi vedano gli altri o che mi critichino, come ha detto Roberto, che dicano che pellegrini, a me non mi interessa, lo porto avanti, cioè, in ciò che credo. Io lascio lo spazio per voi se vuole fare qualcuno, sì, non sento mai dubbio così, non cambia assolutamente il prodotto. È un'iniziativa abbastanza interessante che era già stata portata avanti tempo fa e che è stata interrotta per alcuni diverbi successi. Posso dire tranquillamente anche tra me e Antonio, tra me e altre persone, ma io non ho mai messo in difficoltà nessuno, anzi, dal momento in cui, ripeto, ribadisco, sono la frequenza si è ripopolata, perché se ben ti ricordo eravamo 4-5 che permettevamo, facevamo solo, ci facevano solo compagnia uno con l'altro e si ribadivano cose e si dicevano cose inerenti alla radio e della giornata trascorsa. Nel momento in cui la frequenza si è ripopolata è chiaro che non si pensa più in 4 ma si pensa in 10, quindi le cose vanno pure a cambiare e le discussioni nascono quando non ci si capisce, quando uno ha un tipo di mentalità diversa da quella che può essere di uno appena arrivato, che pure aveva la radio di 10 anni, che però ha deciso di riprenderla dopo tanti altri anni. Comunque questo non è assolutamente un problema. Il problema è che se qualcuno veramente ci crede alla 27 deve portarla avanti come meglio crede, quindi avere quel punto di riferimento che è il baracchino e continuare a fare ciò che faceva negli anni passati. Poi se uno è d'accordo o non è d'accordo, pazienza, l'importante è mandare avanti l'iniziativa e far sì che ci sia sempre qualcuno a Sassari che parla la radio, che non sia io, che non sia quello, sia quell'altro, però che la passione deve continuare, non è che ci deve dire come sento spesso, ma non c'è nessuno con chi parlo, e metti musica, intendi al canale, parla da solo come facevamo un tempo, e ci ma da solo stai parlando, ah, non lo senti a quello che sta parlando con me, no, e infatti sto parlando da solo, e vedi che c'è entrato, adesso siamo in due. Pecca, perfetto, sì, perfetto è così, perfetto è vero, chi ha la passione deve cercare di portare avanti, e poi anche dei paesi limitrofi, non disdegniamo se entrano, Alghero, Porto Torres, che siamo più di più, tutti i paesi che ci sono attorno, magari ci sono tante persone che fanno ascolto e basta, hanno l'antenna, hanno tutto quanto, tutta la corrente, però non entrano. Ma io l'altro giorno sono passato sul canale 15 a salutare gli amici di Alghero e hanno detto la stessa cosa, come mai non c'è più nessuno nel canale 10, ma se voi siete sul canale 15 e arrivate a Sassari abbastanza bene, parlate sul canale 10, perché dovete parlare sul canale 15? Perché il canale 15 è il canale di Alghero, ma se parlate in due, parlate sul 10, vi sentono, la gente entra e parla. Ma infatti non c'è il canale di Alghero, il canale di Sassari, cosa vuol dire? Anche Porto Torres prima mi ricordo che era così, la stessa cosa sul 12, era proprio tassativo che bisognava essere lì. Io adesso ho imparato, cioè se sento gente qua mi fa piacere, se no oggi non gli altri canali e guardo dove c'è gente, per dire l'altro giorno io nei canali più alti ho sentito gente, cosa stavo ascoltando, non sono entrato, stavo ascoltando, però mentre ero al computer mi faceva piacere sentire. Sì, a me fa piacere, sì, io ho sempre le cuffie qua, anche se parlo in mano materiale, ho sempre le cuffie qua, quindi se non c'è nessuno non mi tengo il QRM nelle orecchie, però se me lo trasmetto si muove, sollevo e ascolto, non è che ho sentito Roberto che mi ha cercato stasera, quindi appena ho terminato il walkout sono entrato qua e ho detto Roberto mi stavi cercando, già mi hai sentito, quindi per me non è un problema. È un problema affrontare cose che ho già affrontato, perché siccome ho 52 anni non voglio assolutamente arrivare a, come si dice, a fare il ragazzino come facevamo un tempo, a paraffare attori che non so che ne hanno da capito. Abbiamo la bocca per parlare, per chiarire, se poi, ti ripeto, c'è sempre quello che dice il discorso diventa monotono, monotono perché si parla sempre delle stesse cose, cambia canale se non vuoi ascoltare, però se i discorsi sono quelli, quelli bisogna affrontare, sia nella vita di tutti i giorni che anche in quella che siamo totalmente, dico totalmente abituati a, a sacrificare sia giornalmente che mensilmente, quindi è un hobby che abbiamo, perciò o si porta avanti o qualcuno veramente non ha capito un accidente. Se parliamo di lavoro, di queste cose qua, c'è solo da suicidarsi. Abbiamo le sanguisughe, sono sempre in agguato, ci prenderanno anche le tredicesime, ci prenderanno tutto quanto. Fra poco ci lasceranno lo sedere in terra, se continuiamo così. Infatti questo discorso che avevo l'altro giorno in banda materiale mi hanno detto che ero monopolo, che sembro uno di quelli che sta sempre piangendo, che sta facendo, qui e là. Io non devo parlare, parlo anche dei problemi che sussistono attualmente sia nel mondo del lavoro che anche a livello personale, perché quando una famiglia non è che può fare mille peripezie, affrontare spese a destra e a sinistra, l'ubi che ho io, comprare radio, comprare antenne da 4-5 mila euro, io devo comprare un'antenna, la compro da 300 euro perché quello posso disporre, se poi qualcuno può disporre di 5-6 mila euro e fare le cose meglio delle mie, ben venga, io sono contentissimo, io sono stato bacchettato forte, ma quindi non è che si bacchetta solamente 7, si bacchetta anche dal vabbè, ma poi c'è sempre la mania della potenza, della cosa, devi stare sempre cambiando apparecchi, mettendo lineari più potenti, può essere più forte dell'altro, e c'è competenza anche, diciamo la verità, e quindi porta sempre a spese, tante volte uno come le può affrontare, magari ci sono dei momenti che non le può affrontare, queste cose qua. Zappa, chi è rimasto avanti bianco? Sai che si sono tutti andati? Sono era in quelli che ci stava facendo cosa, aspetta, che vorrebbe sta scalando. Sta abbassando la potenza, ecco qua, 20 watt. Ma a me non mi tocca Gianni, non mi tocca perché semplicemente ti spiego che io sono CB dal 1972 e dal 72 al 2012, quasi 2013, penso di aver dato lo stato dei miei soldini, penso, perlomeno. Sono radioamatore dal 1993, quindi non mi sto attaccando di niente, non mi tocca assolutamente niente. Infine sono fatto di qualche radioamatore che ogni tanto guarda sempre lo stesso discorso, nei miei confronti, a livello personale sto parlando, per carità, però non mi tocca, capito, non mi frega assolutamente niente. Io sono libero di fare ciò che mi piace, di fare radio dove, come, quando voglio, esprimo il mio parere sia in banda materiale che in banda CB, perché la libertà di parola ce l'abbiamo, quindi se poi qualcuno le spreme qualcosa, le tocca qualcosa, è chiaro che deve ribadire. Ribadire davanti però faccia e faccia, non ribadire dietro, guarda Claudio cosa ha fatto, cosa non ha fatto, sempre comprando, sempre qui, sempre là. Io dico una cosa, io dal 93 a oggi, dal 93 a oggi, e penso che sia un bel po' di tempo che faccio attività amatoriale, non ci mi, è la prima volta, dico la prima volta, che spendo 300 euro per comprare un'antenna direttiva, 300 euro, perché il rotore ce l'avevo già. Io non penso proprio che nessuno me ne dire niente. Ho sempre fatto attività amatoriale con antenne di fortuna, con filari, con vetri di filo, e ho sempre dimostrato a tutti che l'attività si può fare anche iniziando da niente e cercando di conoscere, capire e sapere quello che hanno fatto gli altri. Non sono mai partito in quarto. Ho iniziato con le radio valvolari, che ancora oggi ne ho una bellissima e che me la tengo ben conto, comprata da poco. Ho iniziato sempre con niente e poi pian pianino, come hai detto tu, quando, ma dico quando, sottolineo quando, c'è la disponibilità che quest'anno è arrivata molto molto in ritardo. Compri una radio subito, devi prendere le critiche, perché secondo la gente con uno stipendio non si possono fare determinate cose. Vabbè, vuol dire che io non mangio e non do a mangiare la mia famiglia per comprare la radio, questo è sempre il concetto. Vabbè, tu non ti devi scusare con nessuno, ognuno in casa sua fa ciò che le pare, non devi scusarti nessuno, non c'è nessun problema. E il fatto è che magari uno può anche mettersi lì da parte, non è che per forza deve pagare tutto una volta, e lui si può mettere come faccio io dico la verità, non mi vergogno a dirlo. Se mi serve una radio, cosa metto? 50 euro un mese, 100 euro l'altro, quello che posso mettere. Quando ho tutto il gruppo, dopo quando me la compro, mi tocco la soddisfazione. Infatti, tutti facciamo così, però ti ripeto che dal momento in cui tu affronti un discorso del genere in conformità con altre persone che sono sicuramente molto più avanti di te in diverse situazioni, capito, no? Sembra che si monotono, no? Sembra che si monotono perché non hai comprato una radio da 5.000 euro, ne hai comprato un'usata da 1.000 euro. E funzionalmente è quello, la disponibilità è quella, si cerca di mandare avanti questa attività che io a livello personale dico l'avere da quando avevo l'età di 14 anni, quindi penso di avermi fatto la mia esperienza, la mia cultura, i miei litigi, le mie rotture di palle, sicuramente questo lo posso dire con tutta sincerità, però magari qualcuno pensa che o Claudio Sparviero o vanno dal tuo room e c'hanno i soldi sotto il mattone che ogni anno, ogni mese vanno, li prendono, lasciano la famiglia con un chilo di mele a tavola, allora questo è sbagliato. Uno deve guardare la propria persona e pensare a se stesso, non andare a criticare gli altri e andare a sparlare e a cadere gli altri o andare a sparlare alle spalle solo perché non hanno la faccia di affrontare le persone e dire ciò che pensano e ciò che vogliono veramente. Sì, vabbè, ma mai ti devi aver fatto il callo, cosa? Ah, io mi sarei fatto scivolare tutto addosso. Oh, beh, grazie a Dio, ti ripeto, no. Questo incubo è finito per me, Gianni, come vedi io sono ritirato tranquillamente, sono veramente molto ma molto sereno rispetto a tempo fa, perché entravo in radio e sembrava che entravo solo per bisticciare con la gente, a un certo punto ho detto basta e ho cambiato pagina, ho sistemato alcune cose che giustamente a livello personale mi toccavano un po', perché io penso che l'amicizia sia una cosa molto molto seria. Nel momento in cui due persone si frequentano, si cercano e così via, solo per una merda di radio si arriva ad odiarsi, ad avere i pigi giornalieri, a sparlare a destra e a sinistra, vai lì, è passato tizio, mi ha detto che sei così, è passato, lo sai che è così e così, alla fine dici basta, cioè non hai più quella voglia di avere né amici né nemici, capito, il contemporaneo, né amici né nemici, ti ritiri e dici mamma, andiamo a vedere a me, stare lì a discutere le problematiche, i pensieri degli altri quando non c'è accordo con nessuno. Ma ciao, arrivederci a tutti e buon viaggio, capito? Alla fine poi ti porta, no? Dopo tante e tante magagne, hai detto proprio in fotoneria, ti porta a dire basta, non me la fotti di nulla. Vabbè. È una questione caratteriale anche, magari hanno anche un po' coinvolto psicologicamente, nel senso che magari un po' ti distruggono dicendo certe cose, però io ho imparato a farmi scivolare molte cose addosso e evitare le persone, evitare soprattutto le persone che non mi vanno. L'unica cosa è, ho capito, è inutile, non c'è rimedio, se una persona non va, non va, basta, punto. Escluderla e andare avanti. Che tanto è inutile che tu stai con persone che ti fanno una bella faccia, poi ti danno una pugnalata alle spalle. Ma infatti, dal momento in cui succedono queste cose lasci scivolare, ma dal momento in cui a una persona ci tieni, in particolar modo, perché è una persona che può stare al tuo fianco in tutti i punti di vista, è chiaro che ci rimani un po', così, nel senso che ti fai la domanda, no? Dove sto sbagliando, perché è così, dove posso rimediare. Dal momento in cui c'è una risposta valida, perché non vuoi perdere quella persona, anche non frequentando di più, però cercando insomma di vederti, prendere un caffè assieme, sentirti ogni tanto al telefono, eccetera, eccetera, anche se non c'è più quell'amicizia che magari c'era in un primo momento, che è andata a mancare solo perché non sono più fattibili determinate cose anche a livello personale, però tu che ci tieni a questa persona, che quindi non la vuoi allontanare, non la vuoi perdere, cerchi di crearti un attimino un alibi per poter stare un pochino vicino, va bene, ma dal momento in cui, come hai detto tu, la persona non è assolutamente valida, è una persona che non vale niente, una persona che ha solo creato dei problemi, dei danni e tantissime altre cose, la elimini, tagli e vai avanti tranquillamente, fai finta come che non sia mai esistita. Però ripeto, da volte in cui ti fa piacere continuare il rapporto e rimediare, è giusto che ti vai una calmata in mille maniere. volte certamente. E vabbè, mea culpa, molte volte si sbaglia, tutti sbagliano, che sbaglio io, puoi sbagliare tu, puoi sbagliare l'altro, però quando la cosa, c'è un proverbio che dice raro manum est, perseverare est diaboli, quindi se uno persevera nell'errore, poi alla fine si risbala. Lo so, ma se uno è nato storto non è che lo puoi addirittare così, giusto perché tu pensi di essere superiore a lui o avere qualcosa in più, assolutamente. Tutti siamo andati a scuola, tutti abbiamo studiato, che più o che meno affronta ciò che è passare avanti in una maniera o nell'altra, con mille motivazioni, con mille successi soprattutto, ma anche con mille problematiche che non è facile in questo momento risolvere, anche se uno pensa che tutto possa andare bene, non è assolutamente così. Io parlo per me, perché c'è stato un periodo che mi sono risolto problemi veramente molto molto importanti della mia vita a livello personale. Non ho chiesto niente a nessuno, sono andato avanti tranquillamente, nel crederci in quello che io pensavo fosse una cosa non fattibile, ci ho creduto, oggi posso dire grazie a me stesso perché ci ho creduto, e quindi grazie a Dio si è tornato tutta la normalità, è tornato tutta la normalità, anzi meglio di prima e non peggio. Quindi quando le persone ci credono e pensano di poter fare qualcosa, però sono negativi, non ci riesco, è meglio che ci credano e che abbiano la forza di poter crederci soprattutto, non di lasciar perdere qui e là, comunque. La radio è così, a me dispiacciono tante cose, successe o non successe, no? Il problema è che c'è sempre qualcuno che invece di usare il microfono usa la bocca solo per fare danno, quindi è meglio che stia zitto a questo punto. Io dico una cosa, guarda, quando non sto più frequentando, diciamo, CB e cose del genere, sto frequentando amicizie che ho, sono troppo tranquillo, dico la verità. Chiaramente non esistono più, sono una persona che sono rinata là. Prima troppe cose, troppi ciaramedi, troppe cose, a me che io non sono abituato a stare in mezzo a queste bagne qua. Sono abituato a discutere, sì, con loro e voi, però certe cose un po' mi danno fastidio, dico la verità. Preferisco starmene tranquillo, se per dire non posso uscire, non esco, se posso uscire come ho fatto ieri sera sono uscito, non c'è problema. Però almeno me ne sto tranquillo, senza avere sempre questi timori, queste cose, il fatto di dire una cosa e magari essere riportata come un'altra cosa, capito? Cioè, sinceramente già c'è la video, è proprio di là. Sì, beh, quello non c'è problema, quello è stato sempre così, ma a me mi hanno sempre messo in mezzo, anche non essendoci, non frequentando persone che non ho mai frequentato. Nella mia sono entrate pochissime persone nel mondo radioantistico e quelle poche persone continuano ad entrare, pur avendo sempre quel senso di timore che possa succedere qualcosa, che possa andare male qualcosa, che si possa fraintendere un discorso per l'altro, capito? Tutto lì. Ma c'è una persona in particolare che io ho cercato di recuperare in tutte le maniere, anche avendo sbagliato in determinati atteggiamenti, ma non sono atteggiamenti nella quale io ho personalmente fatto danno alla persona stessa. Sono cose che purtroppo io ce l'ho di carattere, io sono abituato a parlare nella mia maniera, qualcuno magari fraintende il mio modo di parlare e pensa che sia un atteggiamento un po' così magari nei confronti delle persone, è assolutamente nessuno, non voglio offendere nessuno, ma nella mia persona di Claudio Sparviero, sia nel mondo radiantistico che a livello personale, l'ho sempre dato a tutti. E qualcuno invece cambia anche marciapiede quando mi vede, addirittura continua a sparlare nei miei confronti. Queste sono cose bruttissime che non accetterò mai più, ecco perché la mia vita è totalmente cambiata. Sono serenissimo anch'io, Gianni, mi sono notato un po' da quello che è il miglioramento di Battali, e continuo a ribadire che chi mi vuole sa dove trovarmi e chi mi cerca mi trova, non c'è nessun problema. L'importante è che si faccia radio e che si parli anche di queste cose, perché tutti quelli che stanno ascoltando sanno benissimo che io sono abituato a parlare come mangio, ma soprattutto a difendermi con la bocca e non con le mani, perché difendersi con le mani è molto brutto, sa proprio di persona nata nella strada e non vissuta per conto mio. Grazie, ma già l'ho detto. Ma che ci ascoltiamo, e allora, come si fa? Ah, Fabio, ma Fabio, sono contento di vedere che tu l'hai ricevuto, come c'era Claudio, come c'era pure a te. Claudio, un minuto, se ne avevo parlato voi, se ne avevo detto, anche tra poco me ne avevo parlato. Avanti, guarda, ciao. Parliamo lì, roba buona vai, se no mi metti a cena. Ma Fabio, guarda, tra partito e guarda a fiore. E a me mi piace soffocare. Ma è proprio, quando c'è il campionato, lo trucco che fa fuori o l'uviore? No, l'uviore, il trucco, la santa. Ma va bene. E se ne faccio poi la volare a mangiare il cantiere, lo so come già. Fermo, avanti. Buonasera Falconero, l'hai sentito anche a te, dopo tanto. Ci facciamo sentire nel bene e nel male, con i soliti discorsi da prete, ma riusciamo a farci sentire anche amorevolmente. Come stai? Stai bene? Ciao, buonasera. Stiamo andando a ritirare di uscito, ma da che male da comunque. E poi vediamo, se c'è una casa ci facciamo scappare due, altre due ci facciamo la testa. E poi lo vengono a capoci, Claudio. Allora, quelle sono notizie non belle da sentire. Purtroppo siamo in questa situazione, dobbiamo navigare. Che ci vada bene o ci vada male, capite? Purtroppo è così. Uno pensa di aver fatto chissà che cosa, pensa di lasciare qualcosa ai propri figli e alla fine si è costretto a vendere perché su quello che devi fare o che hai fatto per lasciare qualcosa ai tuoi figli non è assolutamente valido. Parlo di questo cacchio di mimo di merda che hanno messo e che quindi si è costretto a vendere, non più affittare, non più ad avere i mobili, tutto lì. Vabbè, pazienza Falcone, andiamo avanti, tu ci sei arrivato alla pensione, due della razzia. Io non so manco se ci arrivo, guarda, non so manco se ci arrivo, perché il veleno che c'è in corpo è forse a livello di morire all'istante, guarda, tutto qua, avanti Gianni. Break. Ma facciamo vedere avanti il signor Salvatore, va? Il signore dei pesci. Comunque erano belli morti, prima di metterli dentro al forno, avviso tutti quanti, anche gli animalisti più sfegatati, erano già morti prima di metterli nel forno. Li ha pescati tu? Ah, pescheria. Quindi non ti so dire. Sicuramente qualche buon'anima, visto che poi gli abbiamo dato i soldi per averli qui in casa. Magari. Io a pesce non sto più andando, sto andando a circa e calamari. Qualche giorno già l'ho preso, per farmi il risotto, la pasta con l'olio di seppia, uno già l'ho preso questi giorni. E scappa. No, queste sono due razze di golfaranci. Speriamo che rispondano adeguatamente alle aspettative che abbiamo. Claudio, sei ancora triste? No, per carità, io non sono mai triste, io affronto la realtà delle cose, come dico la sessa, riparlo come mangio. Assolutamente, essere triste oggi vuol dire andare sotto un albero e impiccarti, perché non c'è altro da aggiungere, capito? Comunque ti sei salvato anche questa volta, volevo venire lì vicino a te, a 100 metri da te, invece è arrivato un ababbo, un riccone, quindi la casa di Guerra San Francesco è venduta. Il era l'ultimo piano con mansarda, giusto? Sì, dove c'era il cartello vendici. Sono due appartamenti accoppiati fatti a mansarda, sono 230 metri quadri. Ma mi è dispiaciuto tantissimo, veramente. Vabbè, non è la roba mia, Non ho deciso così, e va bene. Sì, hanno dato la metà e adesso a febbraio fanno l'altro, quindi danno l'altra parte. Però mi è dispiaciuto tantissimo perché non ho avuto modo di fartela vedere, ma hai capito dov'è. Bellissima veramente, bellissima, palazzo, vabbè, è antico, è ristrutturale, però l'appartamento è una cosa indescrivibile, veramente, fatto in una maniera senza risparmio, quando avevo i miei soci. La decisione non aspettava a me, io ho solo detto aspettiamo, invece va bene così. Mi dispiace, Arcipicchia, volevo venire lì vicino a te e darti un po' di mattana, invece mi hai fregato. Ma vuoi vedere che era quello dove abitava Antonio Tirolo? La palazzina antica, quella che c'è praticamente nella discesa delle scale della chiesa, tutto all'angolo, tra Viale San Francesco e Via Carso. Ah, no. Antonio abitava più su, dopo l'incrocio che c'è con via Le Mameli, abitava un po' più su in quel palazzo, prima di quello di Gianni Radiamatore, che è morto. Palazzo prima c'entrava dal cortile. Oh, proprio dove c'è la chiesa di San Francesco, ci sono le scale, davanti alle scale c'è una palazzina molto antica. Non so se aveva l'ultimo piano, quindi l'attico, che erano due mansarde vecchie, le ha completamente, ma dico completamente, buttate giù, rifatte senza risparmio. E praticamente c'era una finanziaria, poi sono stati degli uffici di una grossa impresa di Sassari, che non posso dire qua, forse la più grossa che c'è a Sassari, adesso non so che fine abbia fatto. E poi c'era uno studio associato di avvocati, eccetera. Quando sono morti i miei suoceri, non c'è stato più i figli che loro avevano con i miei suoceri. Non c'è stato più figli con mio cognato, che se ne occupava lui, alla fine ha detto, beh, fatto una cosa di tutti fuori, e ho messo in vendita, ma era già due anni buoni che era in vendita, e si è affacciata una grossa società, e quindi adesso, diciamo, è fatto. Ma sabato, ho le chiavi, perché sino a febbraio siamo ancora, c'è il compromesso, non ho la metà dei soldi, però sì. No, volevo fartela vedere per renderti conto che cos'è quella cosa lì, è veramente pazzesca. Cioè, perché praticamente sono due mansarde accoppiate con un ingresso famoso, non parole da dire, perché fatta senza risparmio, veramente. C'è quattro bagni, è una cosa allucinante come è fatta quella casa. Come è fatta quella casa? si prende. Ma infatti io qua, poi facendo un discorso molto serio, c'è da dire che in periodi soprattutto come questi è già difficile vendere al prezzo giusto. Poi è ancora più difficile avendo metrature grandi da vendere in un unico blocco, cioè proprio clienti è veramente difficile riuscire ad averli, per cui a conti fatti le poche occasioni bisogna sfruttarle, perché se no si corre il rischio poi di avere solo ed esclusivamente un'uscita in termini di tasse di mantenimento dell'immobile che non fa piacere. A proposito di IMU, di quel che dicevate 2 secondi prima che io entrassi, per cui sommato penso che sia un buon realizzo quello che state facendo e non una svendita, per cui va bene così, penso che vada proprio bene. Sì, riprendo quello da Giuliano, realizzo sicuramente sì, no, la presa, uno studio notarile, già tutto fatto, ma è grandissimo, sono due appartamenti da 110 metri quadri l'uno, attenzione, quindi sono 220 metri quadri belli grandi, ma ripeto, tutto un parquet con le travi, ma non finte travi, attento, proprio travi in ulivo, finestre mansardate, tutte elettriche a telecomando, poi c'è un capitale, a quanto male che ho cognato, erano stati spesi più di 90.000 euro per rifare tutto, quindi praticamente un altro appartamento, quindi va bene, è che il prezzo era abbastanza alto perché era 300.000 euro e sono stati tutti 50.000 euro, vabbè, pazienza, va bene così, contenti loro, sono contento anch'io che c'è un po' di respiro, un po' di cose, ecco perché Gianni, come dicevo prima, dal momento in cui non ci credi e pensi di essere lì che aspetti questo tipo di vita, questa cosa per poter andare avanti, dal momento in cui una persona ci crede e pensa positivo, arrivano anche le cose buone, ecco questo discorso che ti volevo dire prima, sono stato Salvatore che conosceva la cosa, quindi è così. E ogni tanto già fa bene quando scende la mano dal cielo, così almeno mi ribussia. Guarda, io diciamo che non ho problemi, sapete tutti che io non ho mai nascosto niente a nessuno, quindi io quelli che sono toccati non a me, per carità, a mia moglie abbiamo già investito e ho preso l'attico qua sopra, quindi perché è un futuro per mia figlia e sicuramente questo sarà il suo appartamento e io e mia moglie da vecchietti ci ne andremo su tranquillamente, ho già iniziato il lavoro pian pianino, senza fretta, senza traffare, senza quando c'è qualcuno disponibile, qualcun altro disponibile eccetera, lo metto lì e faccio fare le cose che ci sono da fare. L'investimento è già stato fatto Gianni, quindi non è che sono avanzati assai di nato, capito? Sono avanzati quei pochi che servono per far sì che le cose vengano finite, ecco tutto lì. Vabbè, l'interessante è che io non riesco a realizzare ciò che nel suo sogno di fare, che riesca a realizzarlo più facilmente, ecco. Non è che uno abbia delle grosse pretese, però almeno a realizzare nel piccolo quello che è, vedi, per dire, una casa che puoi dare in aria, va bene che sia riuscito a farlo, ecco, che sia riuscito a farlo anche in anticipo le previsioni di matrimonio, di cose. Vabbè, sicuramente è sempre un bel dubbio. Lei è già 25 anni fatti, quindi io vorrei che rimanesse una vita con noi, ma giustamente prima o poi ci dovrà sistemare anche lei, quindi dal momento in cui dovrà se purtroppo siamo persone umane, quindi nel momento in cui dovesse decidere di cambiare vita a un posto da tranquillo da poter fare senza andare a chiedere aiuto a nessuno. Questi sono i sacrifici che si fanno, questa è la realtà, questa è la pura verità, e poi tutto il resto è noia. Capito sabato? Tutto il resto è noia. Io ho fatto due tra lampada e destra e sinistra, adesso il 7 di dicembre ci sarà una svolta anche per il lavoro. Ci sono 100 milioni di euro in ballo, 200 miliardi di lire per i nuovi lavori che devono fare di condotta, quindi già si parla di trasferimenti, si vuole altre cose, io sinceramente non ho più voglia di fare il trasfertista a destra, a sinistra, a correre giorno e notte. Comunque, sabato per parlare di fesserie, mi hanno messo satellitare nella macchina. Te l'hanno messo per la movimentazione dei veicoli? Certo sì, ma proprio la mia la dobbiamo pulire. Beh, io non è per essere, però è una cosa, dopo che è successo un determinato fatto che non è il caso di dire in radio, è abbastanza grave, io ho consigliato di mettere e ho già visto un pochettino i costi di montare il satellitare in tutte le macchine di servizio, tutte, perché le persone oneste non hanno mai problemi, le persone disoneste che in orario di lavoro si mettono a fare altro devono essere cassate, perché sennò con la loro impunità vanno letteralmente a sputanare quello che è il lavoro serio fatto dagli altri. Quindi alla fine credo che a te non ti cambi nulla, ma cambierà moltissimo a tanti altri tuoi colleghi. Sì, ormai mi hanno già detto che faccia finta che non ci sia nella sua macchina e continui a fare quello che faceva prima e non si preoccupi. Una cosa che abbiamo fatto, ho messo l'otto, ma non la mia, in tutti quelli che fanno il mio tipo di lavoro, quindi quegli assistenti che GM fanno, hanno tutti satellitari, tutto perché, come hai detto tu, c'è stato un margine di tutto, capito, di consumi, di prestiti di macchine trovate la domenica mattina nelle campagne, quelle non si scappa perché c'erano tutte le scritte, i numeri, capito, nelle campagne la gente si andava a caccia, quindi chiaramente l'azienda, che non è stupida, ha 35.000 dipendenti, è una delle più grosse multinazionali al mondo, ha detto adesso basta, adesso speculare con i soldi miei o bruciare i soldi miei, chiudiamo i discorsi, capito? Ma il problema sai qual è? Sicuramente sei tu, perché noi abbiamo un rapporto lavoro, quindi tra consorzio e dove sono io, in più anche mio fratello ha detto la stessa cosa, la macchina dell'ASI, tutti con satellitare. Non sarai mica tu che hai mandato le mail al mio direttore generale, no? Domanda. Manco lo conosco, però un discorso del genere io l'ho fatto con un direttore generale, per il mio. Tu puoi vigiare qui, adesso ti metto a satellitare anche a te, già, a me nel furgone, così no, ogni tanto, perché la cosa buffa, o Salvatore e Gianni, la cosa buffa è che proprio oggi è domenica, ho già perso l'orientamento, giovedì, no? Mi chiama questo collega e mi dice dove sei qua? Io sto arrivando a Sorso, era sera, mi ha fatto un giovettino, tutto a posto. Tu volevi? Mi volevi? No, ti volevo dire, a te ti stanno chiamando al telefono e dici come mai lei è fermo lì? A me? No, a me non mi chiama nessuno e non vorrei che mi chiamasse nessuno per il semplice fatto che io mi tappe, mi faccio ben poche perché non ho tempo manco di andare in bagno, si può dire, e quindi non mi ha mai chiamato nessuno. Perché? No, perché a me ogni tanto mi chiamano e mi dicono ma signor non posso dire neanche il nome perché siamo conosciuti tantissimo. Perché lei è ancora fermo lì? Non è andato di là? Cioè, immaginati tu. Io gli ho risposto, ma scusa, tu sei un beneamato deficiente, perché sai che hai un satellitare nella macchina. Quando devi fermarti al bar, non ti devi fermare. Quando hai necessità di fare una tua cosa personale, non lo puoi fare. È chiaro che se tu te ne scendi e vai da Claudio a prenderti il vino nella zona di Santa Teresa e loro vedono la macchina ferma 2 ore lì e sanno che il tuo percorso lì è di 10 minuti, è chiaro che ti chiamano. Sei un imbecille, hai capito? Ma questo è un imbecille con la patente super speciale, direi, perché casi cronici come questo penso che sia difficile da trovarli. Non è possibile. No. Finisci il discorso, dopo te ne racconto una. Vai già, vai. Adesso ci cronometreranno pure quando andiamo in bagno per vedere quanto ci mettiamo. Stiamo andando all'esagerazione, vabbè che c'è sempre chi ne approfitta, ed è giusto come ha detto Salvatore che venga cassato, perché chi ne approfitta fa passare anche agli altri in mezzo, che non c'entrano nulla, e questo non è giusto. Pedinatici. No, già, però, a vederla per bene, cioè uno dei rovesci della medaglia è questo qua, mentre quello che stai dicendo tu, cioè nel momento in cui si è letteralmente a log, secondo per secondo, una persona, sapendo questo, deve entrare in un altro ordine di idee della serie. Devo fare 6 ore di lavoro, devono essere 6 ore di lavoro, anche se ero abituato a fare gli affaracci miei durante l'orario di lavoro, non lo posso più fare, devo cambiare registro, mi è andata bene sino ad oggi, ma da domani devo cambiare registro. Le persone che sono in malafede cercano di utilizzare qualsiasi ragionamento di questa è una è un modo per spiare se stiamo lavorando, ma questa è mancanza di fiducia, ma ci volete controllare anche quando andiamo in bagno, ma è un'esagerazione, ma è qui, ma è lì. Sono quelle persone che tirano fuori tutta questo insieme di discorsi semplicemente per cercare di preservare il loro status quo di attivi. Ma io dico la verità, io non ho nulla da temere, perché dove mi fermo è per scaricare e per fare il lavoro mio, quindi quando mi fermo solo perché mi sto fermando e lo posso sempre mostrare che mi sono fermato per quello o per l'altro. Tu pensa che è già capitato un paio di volte che io per portare avanti un determinato discorso di un programma stavo andando in una sede distaccata, no? E tac, una di è per conto giorno, mezzogiorno e 10 e stavo lavorando con questo collega, sono arrivati altri 2 colleghi e dai, ci andiamo a prendere un attimo un caffè e poi torniamo subito, dai, una decina di minuti. E gli ho fatto, guarda, lo vedi tutto il lavoro che c'è da fare, io preferisco proseguire questa cosa qua, dai, tu vai pure, ti aspetto qua, non c'è problemi, va bene, dai, una decina di minuti, un quarto d'ora e siamo di ritorno. Nota che questa è una sede distaccata, quindi io ho detto già 10 minuti, la vedo un po' più lunga di 10 minuti, perché ci vogliono solo 5 minuti ad arrivare nel paesino vicino, quindi come minimo altri 5 minuti per tornare, vuoi starci almeno 5 minuti a prendere un caffè, tra una chiacchiera e l'altra forse diventano anche 10, beh, diciamo mezz'ora, pensavo tra me e me che avrei rivisto il collega. Mezzogiorno e un quarto, uno e un quarto, due meno dieci. Poi no, che cacchio. 2010, come mi cando Leo, e preso, chiuso tutto e me ne sono andato. In strada, sono attraverso il paese e me li vedo che stavano uscendo dal bar. E sono rimasti con il braccio sollevato nel saluto. Ma con crepa gli ho detto. Volta successiva, quando è capitato il discorso, perché sono stati anche poco intelligenti da farcelo ricapitare, ho detto: scusami, se tu avevi intenzione di finire il di lavorare a mezzogiorno e un quarto, non me lo dire 5 minuti e poi sono nuovamente a te. Dimmi, Salvatò, ci rivediamo direttamente domani, perché io sto finendo in questo momento. Beh, certo, sarebbe stato più sincero, invece così da abbigliato Balbondilli. E ce n'è di gente che vive così. Io mi ricordo che c'era una persona che faceva doppio lavoro, lavorava come fontaniere al comune e poi usciva e faceva un'altra attività, lo avvisavano, c'aveva lo spiffero di montagna lì, che quando lo cercavano lo avvisava subito: scusate un attimino, torno subito. Prendeva, usciva, firmava, rientrava e poi quando se ne andava al controllo ritornava là. Vedi un po'. Comunque signori, scusatemi, il pesce ha suonato il timer, vado a toglierlo, ci risentiamo dopo, scusate l'interruzione, buon proseguimento, ciao Claudio, ciao Gianni e salutoni a tutti quelli in ascolto e a qualche altro che casomai era nella ruota ma non ho avuto il tempo di sentire. A dopo, riprendi Cla. Sì, conserva. Ok, Salvatò, buona cena. Già, anch'io vado a mangiare un boccone. Se è fattibile che c'è qualcuno, magari ci sentiamo anche dopo. Non ci sono problemi. Ma vabbè, vado anch'io a mangiare, anche se non mangiavo la segana, perché eravamo a cena a pranzo a casa del cugino di mia moglie, ogni volta che andiamo là. Siamo mangiati la pecora rossa, io ho bevuto un po' e quindi, carità di Dio, sono il combussola. No, la pecora no, Birotte, così, no, non lo digerisco, no, mangiavo una fettina un po' di salata, bevo un bicchiere di vino, poi sono nuovamente qua. Buona radio, ci sentiamo dopo Gianni, saluto a tutti, anche quelli che sono in ascolto. Bravo, mangiato. Vabbè dai, buona cena a tutti e due e poi ci sentiamo se vuoi. Grazie.